A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Sarebbe un errore, secondo me, pensare che sia stato il pessimo Rocchi di ieri sera a regalare la vittoria al Napoli. Il Napoli ha giocato una grande partita. L'Inter è crollata sull'ennesima crisi di nervi. Certamente il Napoli, come ha fatto l'Inter in passato, come ha fatto il Milan, come ha fatto la Juventus, ieri sera ha vinto raccogliendo il frutto di una serie di errori del pessimo Rocchi, tutti a suo favore. Il Napoli in questo momento è, secondo me, ma non secondo me, è oggettivamente la squadra più forte d'Italia. Ha rifilato 6 gol alla Milano del Calcio, ha passeggiato su ciò che restava del Milan e ha approfittato di una squadra che mi pare vicina all'epilogo del suo ciclo, qual è l'Inter, una squadra che è piena di problemi, che certamente saprà rialzarsi spremendo quel che resta, non so se poco o tanto, ma immagino non tantissimo, nel cuore di una squadra che ha vinto tutto. Ranieri è l'uomo adatto per fare questo tipo di lavoro ingrato e lo farà. Il Napoli però oggi, e attendo conferme naturalmente dalle prossime giornate, ma attendo anche, se volete, vostre smentite, perché può essere argomento di discussione, il Napoli è oggettivamente oggi la squadra più forte d'Italia. 800240024, numero verde, messaggi sms 349-238-6666. Quanto alla cronaca di cui ci occuperemo in questa prima parte del programma, poi avremo tempo per chiacchierare insieme fino alle 19 su tutti i temi che volete. Quanto alla cronaca calcistica, vi do il finale già ufficiale da un po' di Novara Catania, che si è chiusa 3-3. Con un'alternanza di vantaggi, le Grottaglie ha dato il primo vantaggio siciliano al 14° del primo tempo, quindi ci sono stati i gol di Rigoni e Morimoto nella ripresa, quarto Rigoni su rigore, 20° Morimoto, dopo il gol di Rigoni il pareggio di Lodi, nel finale il Novara che è andato in vantaggio con Gedà ed è stato acciuffato al 46° della ripresa dal gol di Gomez. Dunque finisce 3-3 questa partita, se vogliamo anche molto divertente, anzi certamente molto divertente. Partite in corso invece, il Cesena è sullo 0-0 in casa con il Chievo e si è appena fumato un calcio di rigore concesso da Banti al 15° per una cintura di Cesar Subogdani e con Mutu che si è fatto parare il tiro da Sorrentino. Quindi Fiorentina e Lazio sono sull'1-1, risultato parziale ancora scritto nel primo tempo. All'ottavo il solito Cerci con un diagonale sporco da destra su un cross di Jovetic. Al 28° un diagonale di Hernanes a pareggiare i conti. Boruz che si è tuffato, secondo me, un po' in ritardo su questo tiro. Quindi il Lecce, che a questo punto mi sembra in difficoltà, sta perdendo 2-0 in casa con il Cagliari, gol di Ribeiro dopo 10 minuti e come al solito il Lecce becca gol all'alba della partita, al 40° con una dinamica simile che denotano un po' i problemi difensivi e Brivio ha sulla coscienza entrambi gli errori, perché nel primo caso Thiago Ribeiro, nel secondo Biondini, sono arrivati in anticipo su un cross che arrivava dalla parte opposta, cioè da sinistra verso destra. Il Palermo conduce 1-0 sul Siena, il gol è del solito, anche in questo caso una costante, Migliaccio, uno dei giocatori, adesso gioca difensore centrale, ma lui che è un centrocampista, è uno dei più bravi in Italia negli inserimenti e segna di testa su una punizione calciata da Miccoli. Palermo che gioca in 10 dal 10° della ripresa per l'espulsione di Balzaretti, doppia ammonizione. Il Parma sta dominando il Genoa nel segno di Giovinco, autore di una doppietta, 29° del primo tempo ed è fin qui certamente il gol più bello di giornata. Controllo di esterno a saltare Bovo e colpo sotto per il vantaggio parmigiano. 42° Kučka stende lo stesso Giovinco in area e l'ex juventino trasforma, al 5° della ripresa segna Morrone. L'Udinese continua a marciare fortissimo ed è 2-0 sulla Bologna, Benassia dopo 29 minuti e Di Natale a trasformare un rigore al 26°. C'è collegato Giovanni Capuano, che intanto saluto e poi ci aiuterà a tenere, insomma, il polso di questa fase finale delle partite di Serie A. Ciao Giovanni, c'è qualcos'altro da segnalare? Eccomi Carlo, no, nient'altro da segnalare, siamo intorno al 33° minuto su tutti i campi. Senti, ti chiedo così, en passant, non è cronaca, o meglio cronaca di ieri, quale impressione hai ricavato dalla vittoria del Napoli sull'Inter? Io ho detto Colpa dell'arbitro, certamente, perché la cronaca dice questo, però se andiamo a leggere la partita, è stato un grande Napoli che, come le grandi squadre, ha sfruttato errori a suo favore, da parte in questo caso dell'arbitro, su un Inter che chiaramente ci vuol poco in questo momento ad andare fuori di testa. Sì, io ovviamente quella di ieri sera è stata la conferma che in questo momento il Napoli gioca un calcio inarrivabile a livello italiano, e del resto la dimostrazione l'abbiamo avuta anche in Champions League con il pareggio che poteva essere una vittoria a Manchester e con un 2-0 contro il Villarreal, che non deve essere banalizzato considerato quali sono i nostri anche recenti confronti con il calcio spagnolo. Devo dirti che l'Inter rispetto al passato non ha in questo momento né la forza fisica né la forza mentale per ribaltare la teoria del complotto, che è abbastanza di casa a Milano, una teoria del complotto che in queste ore, ti preannuncio, si sta anche concretizzando in realtà con un dossier un po' più ampio di questo inizio di stagione, e le parole di ieri di Ranieri e di Moratti che hanno riportato al centro della discussione lo scudetto del 2006 lasciano capire che all'Inter credono che non ci sia solo casualità in quello che sta accadendo, in quello che è accaduto ieri sera nella direzione di Rocchi. La notizia è che questa squadra però, mentre in passato ad esempio con Mourinho e anche in momenti molto turbolenti aveva la forza fisica e psicologica per riuscire anche a ribaltare situazioni negative, quest'anno non ce l'ha, è una squadra a fine corsa. Del resto l'hai ben sintetizzato, ieri sera andata in svantaggio e perso un uomo non poteva che consegnarsi a una squadra che in questo momento è superiore. Ma sentiamo allora le parole di ieri sera di Ranieri su Rocchi, di Moratti sullo stesso arbitro che ha così in maniera così pessima diretto questa gara. Poi vorrei sentire anche le vostre di voci da ora in poi fino alle 19. 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Moltissimi messaggi si sono arrivati tramite Facebook e poi ne leggerò qualcuno. E comunque anche quello, così come Twitter, ci aiuterà a tenerci in contatto, insomma. Sentiamo cosa ha detto Ranieri sull'arbitro di ieri sera. Inadeguata la gara, perché il primo tempo è stato bellissimo, ha ammonito Obi a centrocampo con un'ammonizione che per me non ci stava, aveva preso nettamente la palla e l'ha ammonito. Fallo da rigore, iniziato fuori area di rigore, lo ammonisce la seconda volta. Ha voluto interpretare la gara, non è stata all'altezza della partita, tutto qua, ha rovinato una bellissima partita. Nel primo tempo era stato un bel calcio da parte nostra, il Napoli lo sapevamo che stava dietro e ripartiva, e lui ha condizionato il tutto. Peccato perché non ci voleva, questi ragazzi hanno dato tanto e non andavano castigati in questa maniera, perché ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Queste sono le parole di Ranieri, espulso come sapete nell'intervallo, ma ci sono state anche quelle di Massimo Moratti. Arrabbiato? Beh, sono arrabbiato. Ecco, sei deluso per il livello dell'arbitraggio, perché così scarso, testardamente scarso, cioè nel senso che è durato per 90 minuti questa sua scarsezza. Devo dire anche con l'allenatore si è comportato molto male, non ha avuto nemmeno il coraggio di mandarlo fuori nel momento che era in campo, ma gliel'ha mandato a dire. E quindi io credo che proprio fare tanti sforzi per trovarsi poi un personaggio che proprio non è all'altezza del suo ruolo è una cosa che dà fastidio, è un danno grave alla società, e spero che facciano qualche cosa o di non ritrovarmelo più di fronte, perché molto sinceramente non fa nessun piacere ed è una persona che mi ha danneggiato e ci ha danneggiato tantissimo. Così Massimo Moratti, che pure non le ha mandate a dire. Ma andrei alla cronaca di oggi, insomma gli argomenti di discussione sono tanti e poi lo faremo insieme, discuteremo anche insieme. Tornerei alla cronaca, quella dei campi non ci offre altre reti in questo momento, quindi i parziali restano quelli che abbiamo pochi istanti fa ricordato. Invece la cronaca di oggi dice che l'Italia del rugby torna a casa dai mondiali neozelandesi. Questa mattina c'era la partita della vita contro l'Irlanda. È stata una buona Italia nel primo tempo, chiuso 9-6 per i nostri avversari, un primo tempo fatto di soli calci piazzati, con il segnale che è arrivato proprio allo scadere del primo tempo con un piazzato di Bergamasco che poteva dare all'Italia il 9 pari e che si è schiantato sul palo. E da lì il vento è cambiato, se vogliamo, a inizio ripresa l'Irlanda ci ha schiantati, onestamente, 36-6 per i nostri avversari. Sentiamo un servizio, una corrispondenza che ci arriva dalla Nuova Zelanda di Giacomo Bagnasco. calcio. Il mondiale dell'Italia finisce con una sconfitta pesante. Lo scontro decisivo passa all'Irlanda per 36-6, assicurandosi il primo posto nella Pool C davanti all'Australia. Azzurri a casa dopo la fase gironi, come è sempre successo anche nelle 6 precedenti edizioni dei mondiali. Pur lasciando prevalentemente l'iniziativa agli avversari, Parisi e compagni hanno ottenuto nel primo tempo, concluso sul 9-6 per l'Irlanda, con 3 calci di Ogare e 2 di Mirko Bergamasco. Ma l'infortunio a Castro Giovanni, che era anche andato vicino alla meta, costituiva già un brutto segnale. Nella ripresa si è vista solo l'Irlanda, che ha messo al sicuro la vittoria con 2 mete di O'Driscoll e Irlos nel giro di un quarto d'ora. La difesa azzurra, buona fino al 40esimo, lasciava troppi varchi. La mischia non era più protagonista. Gli errori si sommavano agli errori. La confusione aumentava. Italia nel pallone, punita nuovamente all'ultimo minuto dalla seconda meta personale di Irlos. Nel secondo tempo il parziale a favore dei Verdi è stato di 27-0. Peggio di così non poteva andare. Peggio di così non poteva andare. L'Italia, secondo me, ha fatto un mondiale accettabile, soprattutto se raffrontato a quello precedente, ve lo ricorderete, che fu l'ultimo atto di Berbizier, come questo è stato l'ultimo atto di Mallet. Un mondiale accettabile perché quantomeno ha affrontato con maggiore personalità e con risultati migliori le partite che l'hanno condotta poi a schiantarsi contro la sua inferiorità, con un avversario del 6 nazioni come l'Irlanda. È un peccato anche perché il tabellone ha disegnato una specie di 4 nazioni da una parte, e c'era ancora, poteva pensare addirittura esserci ancora spazio per un sogno addirittura più ardito in caso di vittoria sull'Irlanda, che affronterà a Wellington sabato 8 ottobre il Galles. L'altro quarto di finale ad Auckland sarà Inghilterra-Francia, mentre domenica 9 ottobre si giocano le grandi favorite Australia-Sudafrica a Wellington e Nuova Zelanda-Argentina ad Auckland. Dunque questo il tabellone dei mondiali. Io ho un messaggio che è indirizzato a Giovanni Capuano, dato che è collegato con noi, non riguarda la cronaca delle partite che si stanno svolgendo. C'è qualche novità a proposito, Giovanni? No, nessuna novità, c'è da registrare il forcing del Cesena per cercare la vittoria in casa. L'Udinese 2 volte vicina al 3-0 contro il Bologna. La partita più bella è quella fra Fiorentina e Lazio, che è molto equilibrata, con 2 squadre che però ci stanno provando fino all'ultimo a vincere. Io ti giro un SMS di Paolo da Prato che domanda: fino al 40esimo che partita hai visto? Ovviamente quella di ieri sera. Scrive che la partita è stata super condizionata da Rocchi. Sì, ma difatti a me non sembra di aver detto niente di differente. Io voglio fare 2 riflessioni. La prima, che fino al 40esimo minuto ho visto la partita fra una buona Inter, cioè l'Inter di Ranieri, quella che aveva giocato bene per 60-70 minuti anche a Bologna e a Mosca, e che comunque contro il Napoli era stata capace di costruire non più di un'occasione, proprio perché il Napoli è in questo momento una squadra di altissimo livello. Poi la partita è finita non tanto perché il Napoli si è trovato in vantaggio, quanto perché l'Inter si è trovata sotto anche di un uomo e soprattutto consapevole di quello che era accaduto da parte del direttore di gara in quel primo tempo. Quindi direi che la lettura è assolutamente condivisa. La seconda annotazione: tu hai fatto sentire le parole di Moratti. Io sto facendo una ricerca nel mio archivio. Io ricordo un Moratti così arrabbiato soltanto una volta, così esplicito nell'arrabbiatura, ed era il 1998. Questo per farvi capire che, al di là di quello che è successo ieri sera della vittoria del Napoli, che certamente condizionerà il resto della stagione dell'Inter anche in campionato, all'Inter in questo momento sono molto sensibili sulla questione arbitrale, e quello che è successo ieri viene iscritto in un contesto più ampio. E se posso permettermi, questo da un certo punto di vista è anche più grave di quello che può essere una partita condizionata e decisa dagli errori di un arbitro. Intanto c'è il gol di Klose, 38esimo minuto, l'ha fatto, terzo gol in stagione, l'avevamo detto che era la partita aperta e più bella. Klose ha colpito, c'era andato vicino anche un minuto fa, dunque la Lazio è in vantaggio per 2-1 a Firenze, una Lazio che sta vincendo di rimonta. C'è stato un traversone con un pallone rimesso in mezzo di testa, c'è arrivato Klose a non più di 6 metri dalla porta di Boruk, di testa Klose ha battuto il portiere della Fiorentina 2-1. Giocatore clamoroso Miroslav Klose. Dunque Lazio 2, Fiorentina 1, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo insieme. C'è Antonio da Napoli, primo ascoltatore di oggi. Ma questo Napoli da scudetto? Ma ve lo chiedo chiaramente, esplicitamente, secondo me sì. Oh vita mia, oh cuore, di chi so cuore sei stato, il primo amore. Oh vita mia, oh cuore, forse preferisco questa versione a quella di Camani, eh? Cosa dici, Giorgio De Luca? Felice come una Pasqua. Antonio da Napoli, il Napoli è da scudetto? Buongiorno, dottor Genta. Buongiorno. Niente, non so se è Napoli da scudetto, poi ieri si era dimostrato di essere una grande squadra. Esatto. Volevo soltanto dire che Moratti e Ranieri, io li ho sempre ritenuti due gran signori, sul serio, anzi ho sperato anche che Ranieri venisse a Napoli quando c'era stata l'anno scorso quella diatriba con Mazzari, sinceramente. Però ieri sera dovevano fare i complimenti al Napoli, si sono comportati male. Antonio, però la fate davvero grosse, Rocchi, cioè i complimenti al Napoli, non hanno tolto nulla ai meriti del Napoli, mi pare, però anche Mazzari, anche l'ambiente napoletano, lei lo sa meglio di me, tante volte si è lamentato nei confronti degli arbitri, insomma ieri sera sono stati errori veramente grossi. Ma cosa avremmo dovuto fare l'anno scorso contro il Milan allora? Ma vede, si danno una tragedia quella che sta facendo Moratti e Ranieri da ieri, sì. hanno perso di brutto, non è che hanno perso 1-0, ma 3-0, ma infatti, papine hanno preso. Tre papine più tre che le ha prese il Milan fa 6-1, Napoli-Milano 6-1, ma per questo io dico il Napoli, sarebbe un errore dire che ieri sera il Napoli ha vinto, ma infatti non l'ha fatto nessuno, è dire che ieri sera il Napoli l'ha vinto per un pessimo arbitraggio, nessuno ha detto questo, neanche Ranieri e Moratti, certamente hanno subito degli errori molto gravi e si sono arrabbiati, adesso cercheranno in questa logica, se vogliamo anche un po' antipatica e perversa che impera nel calcio italiano, di ottenere dei vantaggi dalla situazione. Questo è inevitabile purtroppo da noi. 800 24 00 24, numero verde. C'è un rigore a Palermo, lo facciamo raccontare a Giovanni Capuano. Sì, c'è un rigore che sarà quasi certamente l'ultimo atto di questa partita, è per il Palermo, sul dischetto c'è Hernandez, rigore per un fallo di Rossettini su Zavi, Rossettini è stato anche espulso per somma di ammonizione, Palermo che conduce per 1-0, siamo già oltre il terzo minuto di recupero, parte Hernandez, palla centrale in rete, 2-0. Per il Palermo e c'è un rigore a tempo praticamente scaduto anche per il Genoa a Parma, rigore realizzato da Palacio, anche qui siamo ben oltre il tempo di recupero e difatti non ci sarà nemmeno tempo di mettere il pallone a centrocampo, ha segnato Palacio, dunque a Parma finisce 3-1 per il Parma sul Genoa con gol di Palacio che è sempre più capocannoniere in questa fase iniziale della stagione, a Palermo invece Palermo-Siena è finita 2-0 per i padroni di casa con il raddoppio di Hernandez al 93esimo. Sono gli unici due finali, vero? Finali. Sono gli unici due? Sì, sono gli unici due finali in questo momento. Allora rimani collegato con noi, Giovanni, mentre io saluto il mio amico Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao. Altra cronaca di oggi, prima abbiamo parlato di rugby, ora Gran Premio del Giappone, moto mondiale con Pedrosa che vince davanti a Lorenzo Stoner, Simoncelli quarto, quinto Dovizioso, poi Spies, Hayden, Edwards, Aoyama, decimo De Puyne. In questa classifica non c'è Valentino Rossi che sembrava andare un po' meglio, però quando le stagioni sono disgraziate finiscono così. Diciamo che in questa quart'ultima, quindi del mondiale, dove Stoner ha perso solo 4 punti nonostante l'uscita di pista di cui parleremo, diciamo che è stata una corsa strana anche perché è stata accettata molto malvolentieri dalle squadre e dai piloti per la questione che riguardava appunto le possibili radiazioni da Fukushima. Sì. Quindi tutti erano piuttosto tesi, tant'è vero che in partenza c'è stato subito quel doppio errore sia di Dovizioso sia di Simoncelli, che per un semaforo rosso che è durato effettivamente più del tempo tradizionale, ma comunque sempre regolare, hanno fatto un breve movimento, il che li ha costretti poi, pur non avendo vantaggio ovviamente nella partenza, anzi un leggero svantaggio, a dover passare dai box, quindi perdendo montanti posizioni, il che è spiacevole per entrambi perché stanno facendo un'ottima corsa. Col ritiro poi nella fase centrale della corsa, o per mio dire con rallentamento nella fase centrale della corsa di Stoner, che ha avuto un problema molto serio, anche se è visto benissimo nelle immagini, per questa mancanza di efficienza del freno, queste vibrazioni dell'anteriore che l'hanno costretto a allargare la curva e andare sulla sabbia, quindi da primo che era a ritornare a essere settimo, per cui ha recuperato fino al terzo posto e ha perso solo 4 punti perché Lorenzo non è riuscito, anche credo per, proprio perché la macchina, la Yamaha non è così veloce come le Honda di oggi, a raggiungere Pedrosa, che ha fatto una bellissima corsa e che adesso si trova a un punto da Dovizioso e potrebbe teoricamente nel mondiale conquistare il terzo posto, che per adesso per un punto appunto è ancora di Dovizioso, il quale da parte sua ha già dei problemini, poi perché dovrebbe decidere, insomma, con l'Onda non ci può più stare, vedere se andare con la Yamaha, ha dei grossi problemi da risolvere, quindi c'è molta tensione, c'era molta tensione, ecco, in questa corsa. Valentino, il problema di Valentino purtroppo, beh, nel caso specifico, quando uno parte nel centro del gruppo è ovvio che se vede uno spiraglio ci si butta dentro, e lì gli è andata male perché Lorenzo ha fatto un leggero spostamento perché era andato sull'erba e ha dovuto rientrare e insomma è caduto subito, diciamo dopo la seconda curva, quindi non ha potuto dimostrare in che misura la Ducati era riuscita a migliorare. Lui sosteneva prima della gara che avrebbe potuto arrivare anche al podio e vedremo nelle prossime gare, ma certo per il futuro, se si continua con un progresso così lento, è difficile che Valentino possa rimanere lì. Insomma, ti dico, è stata una giornata molto molto strana, molto particolare. Vedremo cosa succede. Di certo è che Stoner, perdendo 4 punti, non si è allontanato molto dal mondiale. No, mondiale che dice 40... Stoner 300 netti, Jorge Lorenzo 260, la lotta è ristretta a loro due, c'è cioè Dovizioso 196. Ci sono 75 punti in gioco, quindi perché Stoner oggi non è uscito, noi pensiamo sempre di Stoner sia colpa sua, lì è stato proprio un problema di questo saltellamento che ha modificato la posizione delle pastiglie e gli ha reso diciamo imprecisa la frenata anteriore, per cui ha saltellato poi col posteriore, è arrivato lungo e ha dovuto per forza uscire sulla sabbia ed è stato bravo a stare in piedi, quindi Stoner direi rimane chiaramente il favorito. Chiaro, terzo posto guadagnato, non terzo posto perso, cioè non punti persi alla luce dei problemi che ha avuto. Mario, ti ringrazio, alla prossima. A voi. Grazie, ciao. Grazie a Mario Poltronieri. Mi sembra che in ballo, che restino a ballare solo Fiorentina e Lazio, no Giovanni? Sì, restano a ballare, ma tra l'altro è finita proprio in questo istante con il triplice fischio di Bergonzi e con la vittoria esterna della Lazio per 2-1 che completa così il quadro di giornata. Fammelo. Allora, Cesena-Chievo 0-0, Fiorentina-Lazio 1-2, Cerci ed Hernanes nel primo tempo close a 7 minuti dalla fine della ripresa. Vittoria esterna del Cagliari 2-0 contro Lecce, tutto nel primo tempo, Thiago Ribeiro e Biondini. Vittoria 2-0 del Palermo contro Siena, Migliaccio nel primo tempo, Hernandez su rigore a tempo scaduto. 3-1 del Parma sul Genoa, doppietta di Giovinco nel primo tempo, poi Morrone per il 3-0 a inizio ripresa e Palacio anche qui su rigore, anche qui a tempo scaduto. E infine Udinese-Bologna 2-0 nel primo tempo, Benassia nella ripresa su rigore di Natale, Udinese che in attesa di Juventus-Milan è prima da sola in classifica e comunque può essere al massimo raggiunta a quota 11 dalla Juventus se i bianconeri dovessero battere il Milan. Perfetto, ti ringrazio Giovanni, grazie a Giovanni Capuano che ci ha insomma tenuto al polso delle partite di questo pomeriggio, appunto Udinese a quota 11. La sensazione è che questa sera a Torino Juventus e Milan giochino per rimanere, certamente nella scia dell'Udinese, ma soprattutto nella scia del Napoli. Ed è curioso, no, notare questo, cioè adesso le grandi dovranno giocare per rimanere sulle tracce di un Napoli scatenato. Un Napoli che, ve la dico grossa ma ve la dico dopo GR perché adesso non c'è tempo, mi ricorda qualcuno, mi ricorda una squadra del passato. Vi lascio lì in sospeso, vediamo se magari riuscite a capire quale squadra del recente passato. 800240024 o messaggi 349-238-6666. Poi torneremo anche sulle furie dell'Inter e sui problemi in realtà dell'Inter. Su una Roma che ieri ha battuto l'Atalanta giocando la sua miglior partita, ma oggi, ed è un'altra notizia che vi volevo dare, ha perso per un po' Francesco Totti, per quanto non si sa bene, però le agenzie dicono lesione muscolare alla coscia destra, ecografia e risonanza magnetica in mattinata per Francesco Totti, inizierà il percorso riabilitativo già da domani, la speranza è quella di recuperare per il derby con la Lazio in programma dopo la sosta. Classifica: Udinese 11, Napoli, Palermo e Cagliari 10 punti, Parma 9, magnifico l'avvio di stagione del Parma, nel segno sempre più di Giovinco, Juventus, Roma, Lazio, Chievo 8 punti, Fiorentina, Genoa 7, Catania 6, Novara, Siena e Milan al momento in attesa della partita di questa sera, 5 punti, Atalanta, Inter 4, quindi Inter in piena zona retrocessione, lo dicono i fatti. Lecce 3, con un Lecce che comunque anche oggi ho visto in difficoltà. Cesena, primo punto stagionale in casa con il Chievo, non credo fosse esattamente questo nei pensieri di un Giampaolo, che magari sarà già in bilico, questo non lo so, magari sentiremo dopo nelle voci di Sky. Cesena e Bologna un punto e così chiudono la classifica. Noi riapriamo i giochi invece subito dopo il giornale radio, vi aspetto. No, caro Umberto, non sono Chievo o Sampdoria le squadre che mi ricordano questo Napoli. Vediamo se ci arrivate, vi do ancora 10 minuti e poi vi leggo una formazione del recente passato. 800240024, messaggi 349-238-6666. Questo Napoli che al primo intertempo stagionale, secondo me, anzi non secondo me ma secondo la cronaca, primo intertempo stagionale che non conta nulla, però in questo momento, oggi, il Napoli è la squadra più forte d'Italia. D'altra parte, lo dicono i numeri, ha rifilato 6 gol al Milano del Calcio, 3 equamente distribuiti, peraltro. Poi possiamo discutere e discuteremo naturalmente dell'operato pessimo di Rocchi ieri sera, però ieri sera il Napoli paradossalmente non ha vinto per l'arbitro, ha vinto perché ha giocato una grande partita e, come fanno tutte le grandi squadre, compresi Inter, Milan, Juventus eccetera, ha raccolto i frutti del destino bizzarro sotto forma di fischi tutti favorevoli e sbagliati da parte di Rocchi. È arrivata ora in redazione e ve la do subito questa notizia, che non è bella, però tant'è. La Turchia ha battuto l'Italia 3-2 nella finale per la medaglia di bronzo agli europei femminili. Già che siamo in agenzia, Mourinho e tutti i falchi illustri che ruotano sulla panchina, o gli avvoltoi se preferite, che fanno la ruota sulla panchina del Manchester United, si mettono ancora in pace, perché Ferguson ha detto che ha intenzione di rimanere lì altri 3 o 4 anni, fate voi. Risultati di oggi, li riepilogo per l'ennesima volta, poi sentiamo anche un po' di voci dei protagonisti, come sempre attraverso i microfoni di Sky, partendo dagli anticipi di ieri, da questo 3-0 del Napoli a Milano, dal 3-1 della Roma sull'Atalanta, primo punto stagionale per il Cesena, 0-0 in casa con il Chievo, e non mi sembra a caso di far festa per i romagnoli, che hanno anche sbagliato un rigore con Mutu. Deve invece far festa la Lazio, che è una squadra estremamente seria, perché per vincere 2-1 a Firenze bisogna avere quella qualità che la Lazio possiede nelle sue stelle, su tutte Miroslav Klose, che ha segnato il gol della partita al 38esimo del secondo tempo, dopo che Cerci aveva aperto le marcature all'ottavo della prima frazione e dopo il pareggio di Hernanes al 28esimo sempre del primo tempo. Il Cagliari ha infilato il dito nelle piaghe del Lecce, nei problemi del Lecce, 2-0 con due gol praticamente identici, cross lunghi dalla sinistra e una difesa leccese piazzata malissimo. Prima Ribeiro e poi Biondini hanno dato la vittoria a un Cagliari che ha una classifica meravigliosa, 10 punti come il Napoli alle spalle dell'Udinese capolista. 3-3 all'ora di pranzo tra Novara e Catania, il Palermo che sta pure andando benissimo con Mangia, Migliaccio ed Hernandez su rigore per il 2-0 sulla Siena, il Parma ancora in segno di Giovinco, doppietta per lui oggi, il primo gol straordinario, quello del 29esimo del primo tempo, il secondo su rigore, poi il terzo gol di Morrone al quinto della ripresa e il rigore di Palacio nel finale, che conta solo per le statistiche e per la classifica dei cannonieri. Conta invece, e come per la classifica della Serie A, il 2-0 dell'Udinese sul Bologna, con i gol di Benatia al 29esimo del primo tempo, una girata in mischia su un pasticcio, mezzo pasticcio della difesa emiliana, e poi il rigore di Natale nettissimo e trasformato dal capitano Udinese capolista, 11 punti davanti a Napoli, Palermo e Cagliari, aspettando ciò che sarà questa sera. 800240024, numero verde. Giorgio Luca mi recuperi poi i messaggi che hanno lasciato, alcuni dei messaggi che hanno lasciato i nostri ascoltatori sulla pagina Facebook di A Tempo di Sport, così li leggiamo. Intanto li sentiamo i nostri ascoltatori. Francesco da Pescara, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io ho ascoltato l'apertura vostra su Inter Napoli, poi non ho più seguito la trasmissione, volevo fare una considerazione su quello e collegarla, diciamo, ad un aspetto generale. La considerazione è che io credo che si mistifichi un po' la realtà nel momento in cui si fissa come unità di misura come l'Inter riusciva con Mourinho a non perdere in 9 contro 11 oppure... Mi perdoni Francesco, posso interromperlo un istante? Perché vorrei sentire insieme a lei l'allenatore capolista Francesco Guidolin. Che il massimo che può succedere è che stiamo in testa con la Juve, se non sbaglio, giusto? Quindi sarebbe mica male lo stesso, dobbiamo gustarci questa cosa, godere e poi quando comincerà la prossima settimana rituffarci sul lavoro e cercare di proseguire e dare sempre il meglio, ma insomma adesso è il momento di gustare dopo 7 partite giocate in rapidissima successione che non ci hanno neanche consentito di rifiatare. Battuta sentita in tribuna, riportiamo: in certi momenti Udinese sembra giocare come il Barcellona e in certi momenti Rabone, colpi di tacco, azioni velocità le abbiamo visti. Io mi arrabbio quando fanno così, perché le partite di Serie A possono essere sempre in bilico. 2-0 non è un risultato che ti mette al riparo dalle insidie. Dobbiamo cercare di essere belli e concreti quando possiamo essere belli, ma concreti, perché oggi avremmo potuto sicuramente fare qualche gol in più. E l'Accademia, insomma, fine a se stessa, a me non piace molto. Ieri ha chiesto un po' più di ottimismo attorno alla squadra, perché prima in che Serie A è prima leader nel girone di Europa League. Cosa bisogna fare per trovare più ottimismo qua a Udine? No, ma io ho solo sottolineato una cosa che mi chiedono diverse cose qui a Udine. Noi, lo dico io, lo dice il nostro club, lo diciamo i nostri calciatori, siamo sintonizzati tutti. Mi sembra che questa è una stagione particolare, perché veniamo da un campionato straordinario e irripetibile. Abbiamo tante difficoltà perché abbiamo ragazzi che vengono dalla Coppa America, abbiamo fatto delle scelte di mercato di un certo tipo che non si potevano evitare, perché quando due giocatori importanti ti chiedono di andare via, l'Udinese li deve lasciare andare. Abbiamo inserito tanti giovani che non sanno ancora ben parlare, ben comunicare, ci siamo giovaniti ancora di più, lo zoccolo duro degli italiani è diminuito in termini numerici. Avremo la Coppa d'Africa, abbiamo la Europa League che tentiamo di fare, quindi sappiamo noi che avremo e abbiamo delle difficoltà, però in questo momento secondo me vale la pena di gustarsi questo sole meraviglioso che c'è in questo bellissimo territorio, e poi quando verrà la pioggia, perché la pioggia verrà, perché questa è una terra anche così, e quindi quando mancheranno i risultati, intanto abbiamo messo via qualcosa e poi magari lotteremo ancora stando insieme e cercando di sostenere questi ragazzi, questa nuova Udinese. Ilaria? Questo è Francesco Guidolin che in vena di romanticismi. Dica Francesco. No, semplicemente stavo dicendo che ho ascoltato come avete aperto su Inter Napoli, a me è sembrato che abbiate un po' mistificato la realtà invertendo, come dire, il termine di confronto, cioè Mourinho che non perde 9 contro 11, che vince il derby 10 contro 11 2-0 è diventato unità di misura, che quindi consente di dire che una serie di cose a proposito della prestazione dell'Inter di ieri. Invece ritengo che unità di misura sia finire le partite con quella di ieri 11 contro 11 e considerare quella di Mourinho, come dire, non un'unità di misura normale, ma... Non un'unità di misura normale, non ho mica detto questo, perché? Diciamo lo scambio che c'è stato con, forse più col giornalista che era intervenuto all'inizio, mi sembrava che invertisse, poi lui ha fatto anche, come dire, un po' di marcia indietro, però io ritengo che sia molto importante fare attenzione su questi aspetti. Fanno un po' cultura, io ritengo, se vogliamo dire che l'Inter è stata penalizzata da Rocchi è nei fatti, cioè che quell'espulsione di Obi non stava nel cielo in terra sul primo giallo non esisteva, ma ha fatto molti errori, tutti a favore del Napoli, come capita alle grandi squadre. Semplicemente voglio dire che non si tratta di usare dei parametri di riferimento. Certamente l'Inter ha giocato una partita in salita, in questo momento il Napoli è più forte e poi se non lo sottolineava Rocchi era meglio, questo è evidente, no? Però mi pare nei fatti che il Napoli sia più forte di un Inter che ha trovato l'allenatore giusto per spremere, credo, le ultime energie che restano in un gruppo arrivato a fine corsa, no? Sì, se posso, sì. Allora, queste valutazioni probabilmente sono valide per tutto quello che si è visto prima e magari si vedrà anche in seguito, al di là della prestazione di ieri. Io però volevo collegare questa, come dire, annotazione su Inter Napoli di ieri al fatto che, a mio avviso, c'è una cintura mediatica da anni anche a livello sportivo in Italia. Radio 24 e questo programma secondo me si distinguono, io infatti intervengo per questo motivo, non mi viene neanche in mente di immaginarmi intervenire in altra immondizia giornalistica, e proprio per questo però dico che bisogna essere davvero proprio molto attenti nel non invertire di alcuni elementi reali di fatto che sistematicamente si verificano. Faccio un altro esempio e poi chiudo. Per esempio, quando in qualche modo anche un riferimento allo stesso Rocchi, cioè va detto che la designazione di Rocchi, per quanto tecnicamente legittima, è provocatoria rispetto un po' a tutto quello che è il pregresso di Rocchi, le sue vicende, eccetera, eccetera. Una cosa che, come dire, Moratti ha detto chiaramente: non lo voglio più vedere. È evidente che Rocchi, comunque. Nei confronti di Rocchi verranno presi dei provvedimenti da parte del designatore. È evidente che ha commesso degli errori che lo metteranno la prossima volta che arbitrerà l'Inter in una condizione molto molto difficile, e sappiamo perfettamente come il nostro calcio è fatto così. E aggiungo anche, questo vale per me, non so per quanti di voi purtroppo. Ringrazio Francesco, ci fermiamo per il traffico, poi c'è Marino da Marsala e poi andiamo avanti. 800 24 00 24, numero verde. Questo Napoli non mi ricorda né il Verona di Bagnoli né il primo Milan di Sacchi, cari ascoltatori. Strade in diretta. Sono code per un incidente sulla 10, da Genova a Ventimiglia verso Ventimiglia, tra Albisola e Savona. Occorre particolare prudenza perché l'incidente, nel quale sono coinvolte due auto, è avvenuto appena fuori da una galleria. Sia la 10 sia la 12 Genova-Livorno sono trafficatissime in direzione di Genova e il traffico di rientro al termine del weekend. Per lavori le code sulla 15 della Cisa verso Parma, tra l'innesto con la 12 e Aulla. E proseguono anche i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria. La 3, l'autostrada resta chiusa tra Lago Negro Nord e Lauria Nord nelle due direzioni e tra Sant'Onofrio e Rosarno sempre nelle due direzioni, ma quest'ultimo tratto dovrebbe riaprire a minuti. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Buonasera Marino da Marsala. Salve, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera. Volevo intervenire per il discorso che ho sentito, appunto, che lei diceva, il fatto del Napoli che rappresenta la squadra più forte d'Italia in questo momento. Io devo dissentire completamente perché c'è un discorso di fondo che facciamo l'ipotesi che ieri l'Inter al secondo tempo non entrava in campo. Perché si rifiutava di giocare, il Napoli avrebbe vinto. Perché doveva rifiutarsi di giocare? È perché praticamente c'è stata un errore colossale che ha difettato la partita, ha completamente stravolto la partita. In passato però ce ne sono anche delle altre che potevano entrare in campo contro l'Inter nel secondo tempo, mi sembra, cioè non ne ricordo di più gravi di errori nella storia del calcio anche recente, Marino. Sì, però se torniamo sempre errore al passato per non correggere il futuro, cioè è chiaro che rimaniamo sempre il Napoli ha beneficiato di errori colossali a suo favore, l'Inter ha beneficiato di errori colossali a suo favore ieri o l'altro ieri, ne beneficerà domani, il calcio è questo, insomma mi sta... Non mi sembra una lettura corretta. Io dico, in questo momento il Napoli è la squadra più forte d'Italia, ha rifilato 6 gol a Milan e Inter, Napoli-Milano 6-1. Ok, però facciamo un'ipotesi, facciamo un'ipotesi così, non si potrebbe verificare, no? Facciamo l'ipotesi che l'Inter non si prestava al secondo tempo, quindi cosa succede? Che il Napoli è al primo posto in classe, cioè andrebbe considerata la più forte d'Italia senza che giocava. Perché praticamente con già al secondo tempo lei aveva 10, l'Inter era 10 contro 11, il primo tempo un errore, un gol da parte del Napoli, un errore arbitrale, un gol, quindi 1-0, 10 contro 11, quindi siamo completamente in disparità. Va bene Marino, io però, visto che siamo nel che non campo, si può dire che il Napoli è più forte d'Italia, almeno al momento. Ma non lo so, visto che siamo nel campo della fantascienza, allora dico, l'Inter invece di non ripresentarsi in campo nel secondo tempo, non capisco per quale ragione, si presenta in campo dalla grande squadra che era, ribalta la partita e la vince. La verità è che secondo me l'Inter 10 contro 11, 9 contro 10, una grande squadra reagisce in un altro modo. In questo momento l'Inter non ha quelle caratteristiche, non ha quelle qualità, ma non si tratta di non tornare in campo perché hai subito un errore. Siamo all'oratorio che porti via il pallone se ti girano le balle. Veramente non era 10 contro 11, erano 10 contro 13, perché l'arbitro vale per 2. Fabio Monti, aiutami tu. Ciao Fabio. Buongiorno a te. Ciao. No, mi pare che le cose vadano un po' scisse, insomma. Se ci siano stati degli errori arbitrali gravi è fuori discussione. Che l'Inter adesso non sia in un buon momento è altrettanto certo, sì. Probabilmente l'Inter avrebbe perso anche in 11 contro 11, visto gli ultimi 10 minuti del primo tempo. È certo che poi l'espulsione di Obi, il rigore e tutto quello che c'è stato hanno mandato quasi in cortocircuito la squadra, che si è ripresentata in campo nella ripresa, secondo me, senza più un'idea chiara di quello che doveva fare, era assegnata a farla finita in fretta e basta, insomma. Fabio, tu hai timore di vedere già spuntare dei dossier dalla segreteria dell'Inter in questo momento? No, ma non credo. Credo che l'Inter sia sostanzialmente convinta che quest'anno faranno pagare la squadra e alla società quello che è successo in estate con la vicenda dello scudetto. Questa è una convinzione che hanno da tempo e non credo che ci sia una guerra di dossier, ci sia niente di particolare. D'altra parte gli errori di Rocchi sono grandi come una casa, ma questo a prescindere che l'abbiano fatto contro l'Inter, contro la Juventus, il Milan o la Giacomense, che mi pare che sia la squadra del paese più piccolo tra la Serie A e la C2. Sì, al di là di questo timore dei fantasmi, quali problemi ha sul campo oggi l'Inter oggettivamente, secondo te? Intanto che ha fuori alcuni titolari fondamentali come Snyder, e poi è una squadra che ha pagato l'avvio complicatissimo della stagione, il cambio di allenatore, un precampionato abbastanza incomprensibile, il fatto che la squadra e Gasperini parlavano due lingue diverse e poi sostanzialmente che la squadra è comunque vecchia, adesso si può appellarsi a tutto, alla professionalità, alla voglia di vincere ancora. Sicuramente la squadra non è appagata, ma se mancano le forze è come essere appagati, insomma. Ti ringrazio Fabio. Grazie a voi. Un abbraccio. Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera. 800 24 00 24. Non mi ricorda neanche l'Inter del secondo anno di Mourinho questo Napoli. Aspetto ancora un po', vediamo se qualcuno riesce a entrare nei miei pensieri. Questo Napoli mi ricorda una squadra, vi aiuto, va, una squadra non italiana del recente passato. Torniamo indietro di una decina d'anni, facciamo così. Tra poco vi faccio sentire la voce di Eddie Reia, che vedo pronto ai microfoni di Sky dopo la vittoria importantissima della sua Lazio a Firenze. Non so se sta già parlando. Ancora la Lazio, buon momento. Stanno facendo rivedere i gol. De Silvestri su di lui. Hernanes! Sì, gol di Hernanes, molto bello quello del pareggio, sul quale però Boruz, almeno a mio parere, ha qualche colpa, perché si è sdraiato un po' in ritardo su questo diagonale secco raso terra dalla sinistra. Luca da Torino, buongiorno. Sì, buonasera, illustrissimo, carissimo. Dica. Dopo aver sentito Fabio Monti, più che altro, c'è solo da a sentire quello che dice. Beh, sì, non necessariamente. No, vabbè, ma grande interologo, voglio dire, tanto di cappello. Sì, certo, ieri sera si poteva ribattare la partita se ci fossero stato Eto'o, Milito e Snyder. Ecco, voglio dire, è normale che queste cose, quando succedono, io sono ancora così, no, la rabbia mi ha fatto venire il sorriso, perché ho detto vabbè, ho detto io gli ultimi 5 anni si è vinto l'impossibile, penso che anche Luca, i cicli finiscono e finiscono anche in questa maniera, anche con errori avversi da parte di un arbitro, anche con il giocatore più atteso che prima che si fa male, in questo caso Snyder, subito dopo l'arrivo di Ranieri. Insomma, quando finisce un ciclo, finisce in questo modo, ne ricordiamo tanti in passato, quello della Juventus, quello del Milan, qualcuno si ricorderà anche del capello bis o del sacchi bis al Milan, che furono fallimentari. Insomma, quando finisce un ciclo tutto va storto. L'unica risposta è quanto c'è ancora in questa Inter da spremere, ed è una risposta che che avremo nei prossimi mesi. Istantaneamente invece abbiamo la voce di Ryan Hoskai. Ma è la vittoria di una squadra che ha grande personalità, grande carattere, in modo particolare nel secondo tempo, dove le energie non c'erano più, perché noi venivamo dalla trasferta di Lisbona e non abbiamo recuperato totalmente. Poi oggi erano più di 30 gradi, non era facile tenere ritmi per 90 minuti altissimi. Invece la squadra ha gestito molto bene, abbiamo creato delle buone opportunità noi, come le ha avute anche la Fiorentina. Una partita secondo me piacevole, considerando anche il tempo, in modo particolare il caldo. Marchetti si è dato da fare, ha avuto qualche palla in più rispetto ad altre volte, però sul piano difensivo oggi abbiamo fatto direi molto bene, a parte un paio di errori nel secondo tempo. Poi abbiamo retto molto bene nel secondo tempo, un grande possesso palla i 20 minuti finali dopo l'entrata di Matusalem, e l'abbiamo gestita bene. Niente merito ai ragazzi, perché hanno profuso un sacco di energia. Secondo me l'ha vinta con due mosse, Riga, se è d'accordo. Intanto il primo tempo con Hernanes largo a sinistra andava bene in uno contro uno con De Silvestri, e poi quando ha tolto uno dei due attaccanti, Sissé, che non è mai entrato in partita, appunto ha messo Matusalem a centrocampo, si è preso la partita. Non so se è d'accordo con questa analisi. No, abbiamo fatto molta fatica a metà del secondo tempo e non tenevamo su palla, non si ripartiva più, e allora c'era la necessità di mettere un giocatore in mezzo che avesse più tecnica e avere un po' più di equilibrio, perché la Fiorentina stava spingendo molto in quel momento lì. Quindi possiamo dire, a sinistra ha fatto molto bene. Possiamo dire gran risultato questo per la Lazio. 800 24 00 24 invece è il vostro numero verde. Antonino da Padova, buonasera. Buonasera, signor Gentile. Mi abbassa la radio, per favore, sennò sento. Sì. Buonasera. Dunque, voglio parlare delle partite di Inter-Napoli. Sì. Le dico prima che sono un interista. Sì. Però non so, sono abbastanza critico verso la mia Inter quando gioca. Ma ieri sera io ho visto a parità di campo niente superiore al Napoli. Perché siamo entrati due o tre volte con Michael dentro l'area, che per un niente non è stato fatto il gol. Abbiamo segnato un gol per questione di centimetri fuori gioco. Ho visto niente che dominava il Napoli, non il Napoli che avesse dominato l'Inter 11 contro 11. Poi come è successo quello che è successo, poi il secondo gol era regalato da Nagatomo. Stiamo parlando comunque di una grande squadra in difficoltà, in crisi, probabilmente vicina alla fine. Stiamo sempre parlando di una grande squadra che è l'Inter, non è che stiamo parlando. Dica. Io non sto discutendo che l'Inter si infase a casa. Guardavo la partita di sera e ho sentito tantissimi elogi con Napoli. Io il Napoli non l'ho visto nel primo tempo, quando l'Inter era alla pari con gli uomini con Napoli. Ho visto un Napoli che, anzi, l'Inter è superiore, perché loro hanno fatto un colpo di testa con Zuniga, mi sembra, e basta di tutto il primo tempo. Non ho visto questo Napoli fantastico, nonostante sia Iobi e Alvarez che allora, sta mancando. Io non so se ho visto un'altra partita. No, ma Antonino, ma insomma, lei ha visto una bella partita di calcio, purtroppo rovinata dagli errori di un arbitro, e questo ci può anche stare nella fallibilità umana. Non starei a fare tutta la storia delle dietrologie. Quest'anno faranno pagare all'Inter l'estate Calciopoli, mi vengono in mente solo parolacce, quindi meglio che non le dica. Tutte queste cose non ci credo, non mi interessa, non voglio crederci, mi sembrano fesserie. Semplicemente ho visto l'Inter, che è quel che resta di una grande squadra, con molti problemi, molte difficoltà tattiche, tecniche, fisiche. Vedo una squadra che prende un sacco di gol, e questo mi sembra un dato statistico, al di là di quanto ha prodotto ieri sera. In casa un sacco di gol, questo dall'inizio della stagione. Ha diversi problemi di condizione, di posizione, ha problemi tattici, ha problemi di trovare la chimica giusta in attacco con Forlan, che ancora mi sembra stia cercando la strada di casa. Non è certamente il giocatore che conosciamo a livello internazionale. Insomma, mi sembra una squadra piena di problemi e vicina all'epilogo, alla fine di un ciclo. Ranieri saprà spremere certamente quello che resta in questa squadra, ciò che resta dentro questa squadra, che è stata fatalmente una grande squadra, che penso si riprenderà e infilerà una serie di vittorie che la porteranno a continuare a galleggiare comunque ai vertici della classifica, non certo in zona di retrocessione dove adesso. Detto questo, il Napoli non è il Barcellona, ha fatto una partita di grande personalità, non ha sofferto più di tanto, mi pare, ha contenuto e controllato, e ha fatto male all'Inter con le armi che ha a disposizione, tenuto conto che mancava anche Cavani. Andrea da Castelfranco, restiamo in Veneto. Carlo Genta, è un piacere parlare con lei. Reciproco, tutto mio. Dico. Allora, condivido da interologo la tesi sull'Inter, squadra ormai purtroppo per noi, alla fine di un grande ciclo che gli eventi stanno accelerando verso questa fine, diciamo, tra virgolette. La squadra che lei intende, diciamo, quella che assomiglia al Napoli in questo momento, sì, non è che sia l'Arsenal di qualche anno fa? Vi siete curiosi, eh? No, non è l'Arsenal. Neanche di quella, niente da fare. C'è chi scrive il Liverpool di Benitez, il Galatasaray di Terim, la Juventus del 2006, credo, di capire. Niente, siamo oppure tutti fuori strada. C'è qualcuno che ci va vicino? Scrivendo, vabbè, ma ve lo dico dopo, vi tengo lì, non è, insomma, vabbè, no, ma era ma magari, magari dico sciocchezze io, però insomma il parallelo, le suggestioni ci sono, è una squadra di qualche anno fa che qualcosina ha vinto, che e perché non parliamo un po' dell'Udinese di Guidolin? Io parlerei anche dell'Udinese di Guidolin molto volentieri, nel senso che in questo momento 11 punti primi in classifica, io insomma da buon Triveneto direi che è un po' di vetrina anche per il nostro Francesco, insomma, di Castelfranco Veneto, merita un po' di visioni, ma l'ha sentito prima, tua, no? Il tuo commento, che so che è sempre molto perspicace. Ma l'Udinese è meravigliosa, ma abbiamo sentito prima Guidolin addirittura poetico in queste immagini, in queste ci godiamo per il momento il sole su questa terra così bella, però sappiamo che una delle caratteristiche di questa terra è anche la pioggia, arriverà la pioggia e ai momenti duri apriremo gli ombrelli. L'Udinese insomma vive la sua invidiabile dimensione di una squadra che gioca senza troppe pressioni addosso. L'Udinese non si chiede certo di vincere lo scudetto, non si chiede in fondo nemmeno di qualificarsi stabilmente per una competizione europea. All'Udinese si chiede, ed è forse l'unico esempio in Italia, si chiede di divertire la sua gente. In questa missione riesce in maniera magnifica, e di creare grandi giocatori, e lì sono bravissimi. Ci fermiamo per tornare subito dopo questa pausa. 800 24 00 24, numero verde. A dopo. La trasformazione è già iniziata. L'energia sta cambiando, perché nessuna fonte tradizionale è inesauribile. Cambia il modo di produrla e di consumarla. Mr. Kilowatt racconta cosa cambia, come cambia e perché. Sono Maurizio Melis e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 21 su Radio 24. In collaborazione con EDF Ener Solare, impianti fotovoltaici, la vera alternativa. Se la Tour Eiffel è stata costruita col ferro e non col cristallo, un motivo ci sarà! La solidità è il vero investimento. Mediobanca presenta Quinto Atto, la tua obbligazione biennale a tasso fisso del 4% annuo lordo, quotata sul MOT di Borsa Italiana. Informati su mediobanca.it. Passa l'ordine alla tua banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione, leggere il prospetto e le condizioni definitive delle obbligazioni Mediobanca Quinto Atto. Side Up fa decollare il tuo magazzino. Side Up è il software online per la logistica di magazzino attivo in 4 settimane. Senza installazione. Senza manutenzione. Sempre aggiornato. Side Up, un servizio reply. Logisticamagazzino.it. Da Fassina 4x2 è uguale a 16. No, non sono impazzito. Fiat 16 2000 Multijet Dynamic, 135 cavalli. Prezzo di listino nuovo a 24.600 euro. Sconto Fassina 35%. Prezzo finale 15.900 euro con zero anticipo. E rate da 199 euro al mese con 5 anni di assicurazione incendio e furto compresi nella rata. Non meravigliarti, è Fassina. Scopri i dettagli sul sito gruppofassina.it. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Fino a giovedì l'alta pressione occuperà la nostra penisola, regalandoci ovunque bel tempo e caldo fuori stagione. Tra venerdì e sabato una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola, riportandoci ad un tempo più autunnale. Domani al mattino prevalenza di cieli sereni in tutte le regioni. Nel pomeriggio si formerà qualche nuvola sull'Appennino meridionale in Sicilia, con brevi piovaschi pomeridiani nelle zone interne della Sicilia. Sempre bello e soleggiato nel resto del paese. Un po' di fresco nelle prime ore del giorno. Le massime invece rimangono ben oltre le medie, con valori per lo più tra i 25 e i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. E con questo è tutto. Dopo aver conquistato il mercato italiano del fotovoltaico e aver scalato le classifiche europee delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili, Terni Energia entra nel settore dell'efficienza energetica. Terni Energia è il partner ideale per tutte le aziende che vogliono ridurre gli sprechi e ottimizzare il consumo energetico come leva per salvaguardare la competitività, garantire gli approvvigionamenti, ridurre l'impatto ambientale. Terni Energia incontra la comunità finanziaria e industriale il 7 ottobre a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano nel convegno Crescita e Industria Green per parlare di efficienza energetica, rinnovabili e waste management. Per informazioni e iscrizioni gratuite www.ternienergia.com. Posso? Davvero posso dire una cosa al mio capo? Ok. Caro capo, perché dopo tutti i meeting, i planning, i briefing, non mi mandi a fare un po' di shopping? Magari per Natale, magari con Ticket Compliments, il buono acquisto che mi permette di scegliere il mio regalo preferito. Magari. Così semplice, così geniale, da Edenred, l'inventore di Ticket Restaurant. www.compliments.it. A cominciare da oggi, la linea da seguire sarà una curva. Infiniti e Red Bull Racing. Design e prestazioni senza compromessi. Infiniti M Ibrida, tua a soli 599 euro al mese. Offerta valida fino al 31/12/2011. Per maggiori informazioni, visita il sito infiniti.it o chiama l'800-764-765 per prenotare un test drive. A cominciare da oggi, c'è Infiniti. E il mensile di Emergency questo mese vi porta a Quirra, in Sardegna, per approfondire l'inchiesta sul poligono militare attraverso gli occhi di chi indaga e con un racconto di Massimo Carlotto. In Libia, con la storia di tre fratelli che da sempre si sono opposti al regime di Gheddafi. Sulle strade di Londra, per scoprire che esiste un nesso tra come è costruita la città e le rivolte di agosto. E il mensile di Emergency, per chi è stanco di farsela raccontare. In edicola da mercoledì 5 ottobre. Tempo di sport. Voglio andare subito a Cesena, dove c'è il nostro Emilio Buttaro con un ospite, credo. Sì, grazie Carlo, sono in compagnia dell'allenatore del Chievo, Mimmo Di Carlo. Mister, ieri lei aveva definito la gara di Cesena come un esame di maturità e l'esame è stato superato molto bene. Ma sicuramente sì, un punto per noi ci fa muovere la classifica contro una diretta concorrente alla salvezza. Facciamo anche i complimenti anche a Cesena, che comunque ha fatto una buona gara, però i ragazzi, il Chievo, i miei ragazzi non sono mai avuto un momento di che si potevano magari pensare che potessero rompere le linee. Siamo stati molto vicini e abbiamo portato a casa un punto importante, e devo fare i complimenti a Sorrentino che ha fatto, oltre al rigore, ha fatto una gran parata, perciò torniamo a casa con qualche certezza in più sulla classifica e chiaramente provando a migliorare quello che abbiamo fatto anche oggi. In effetti Sorrentino oggi è stato il migliore in campo, ha parato il rigore, ha fatto due interventi decisivi. Di Carlo, adesso c'è la pausa per la nazionale, ma 8 punti in 5 gare per la sua squadra rappresentano davvero un bilancio importante. Sì, quello che conta, sappiamo benissimo, in Serie A è la continuità, no? Sia di risultati ma soprattutto anche di prestazioni. Noi venivamo da 2 buone vittorie, 2 ottime vittorie, e oggi non era facile contro questo Cesena che aveva tanta voglia di voler fare 3 punti. Cioè, a questo punto qui ce lo prendiamo e ce lo teniamo molto stretto, perché per noi questo scontro diretto vale doppio, e non perderlo per noi, cioè, detto, da continuità ma soprattutto da certezza anche a livello difensivo. Carlo, non so se è una domanda per l'allenatore del Chievo. Io volevo solo fare i complimenti a Di Carlo, perché è stato l'unico a battere quella che io continuo a pensare oggi, 2 ottobre, la squadra più forte d'Italia, cioè Napoli. Non so se è d'accordo. Ma sicuramente sì, quest'anno il Napoli ha due squadre importanti, perché non ha solo una squadra, due squadre importanti. È chiaro che arrivando a Verona magari la nostra partita è stata molto di grande concentrazione, ma molto di concretezza, e probabilmente quel gol lì con l'errore fatto dal difensore ha spianato la strada alla vittoria. Però il Napoli merita sicuramente di star lì, come merita l'Udinese, perché bisogna fargli i complimenti a mister Guidolini e a tutto l'Udinese che sta facendo un grandissimo campionato. Ma è da scudetto il Napoli, mister, brutalmente? Napoli, Lazio, Milan, e penso questo Udinese zitta zitta si sta mettendo lì davanti, perché quando una squadra non prende gol, sono convinto che quando hai un attaccante come Di Natale che fa 25 gol all'anno, 25-30 gol all'anno, io penso che possa andare lontano. Perciò sono queste 3-4 squadre insieme all'Inter di ieri sera del primo tempo che sta riprendendo quello che è la loro, secondo me, forza, forma, ma soprattutto la loro qualità. Grazie e complimenti, grazie davvero a Mimmo Di Carlo, collegato con noi in diretta grazie ad Emilio Buttaro. Torno a parlare con gli ascoltatori, non il Porto di Mourinho, Porto che comunque è una grande del calcio portoghese, non il Lione come segnala Marco da San Nicolò a Tordino, non il Valencia di Cooper come ha scritto anche un ascoltatore su Twitter, non queste. Ci siamo vicini, però ci stiamo avvicinando. Chi mi ricorda questo Napoli? Tra poco vi leggo la formazione. Pino da Avellino, Raffaele da Siena. Pino, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Volevo parlare della partita di ieri sera. Prego. Credo sicuramente Napoli con De Laurentiis negli ultimi anni sta facendo un buon lavoro, un ottimo lavoro anzi. Però credo che se anziché espellere un giocatore dell'Inter e regalare il rigore al Napoli fosse successo l'inverso, credo che la partita l'avrebbe vinta l'Inter e non il Napoli. Però questo è un mio pensiero. Come è giusto quello che dici, che un ciclo si è chiuso, che una società come l'Inter, ex campioni d'Europa e fra poco ex campioni del mondo, stanno con giocatori che sono arrivati alla fine della carriera. Fisiologicamente per colpa di nessuno. L'unica cosa, voglio solo far notare questo, insomma, le riprove non le abbiamo, non nel calcio. Se avesse fosse successo il contrario avrebbe vinto l'Inter, o piuttosto l'Inter non doveva tornare in campo, secondo tempo questa era più bizzarra di tutte. Però quello che voglio notare sono le parole che ha detto prima Mimmo Di Carlo, non so se le sentite. Ho sentito solo parzialmente perché ho dovuto chiudere la radio. Ha detto insomma, sulle favorite per lo scudetto. Lui ci ha infilato, ma giustamente, anche l'Udinese, perché a ottobre c'è spazio per tutti i sogni. Poi sappiamo che l'Udinese lo scudetto non lo vincerà, anche se io vorrei, però siamo realisti. No, ma Udinese, Palermo, siamo Lazio, non vinceranno mai lo scudetto queste squadre. Siamo realisti. Club che però lavorano bene. Fantastici, ma non i vinceranno questo Verona, scudetto. Il Verona, secondo me, sono difficilmente ripetibili. Sono d'accordo. Insomma, sono fantastici, speriamo che arrivino più in alto possibile, facciamo il tifo per loro, come volete, ma non vinceranno lo scudetto ed è inutile star lì. Secondo me il Napoli può realisticamente vincere lo scudetto. Avete sentito Di Carlo che ha detto indicativo, perché metto l'Udinese? Perché è una squadra che non piglia gol e con uno come Di Natale davanti un certo Montereti comunque è garantito. L'Inter, al di là di Rocchi, prende una marea di gol. È una squadra che in questo momento non ha alcun tipo di equilibrio e dà un sacco di problemi. Poi possiamo fare tutti i dossier che vogliamo. Sul campo, l'Inter, in questo momento è una squadra con un sacco di problemi. Qualcuno lo risolverà, qualcun altro no, perché per risolvere problemi anche così profondi e strutturali che derivano da logorio, da stanchezza, insomma ci si può riuscire fino a un certo punto. Secondo me alcuni problemi di questa Inter, di questa squadra, sono irrisolvibili. Raffaele da Siena, buonasera. Senta, volevo dirle, la cosa che mi ha colpito ieri sera nella partita Inter-Napoli è stata l'espulsione di Ranieri dell'intervallo. Avrei immaginato, giustificato l'espulsione in occasione di rigore, ne esisteo di altre cose, ma un allenatore della sua esperienza farsi prendere la mano quando sapeva che la sua squadra aveva bisogno di lui. Può essere anche che abbia provocato quella situazione, non mi sorprenderei, cioè che le proteste, non so se lei è tifoso di basket, chiamando da Siena. Sì. Sa benissimo come in certi momenti l'allenatore vada a provocare in maniera deliberata l'arbitro, magari beccandosi un fallo tecnico per cercare di girare il vento. Io non escluderei, proprio perché Ranieri è un allenatore di grandissima esperienza, non escluderei nemmeno una non fraintendetemi, ma un dolo in quelle proteste. Mi vado a cercare il confronto con l'arbitro nella speranza poi di avere comunque un ritorno, un effetto positivo nel secondo tempo. Può essere anche che in una squadra stressata in questo momento come l'Inter questo sia stato il pensiero di Ranieri. Non mi sorprenderebbe, sarebbe anche legittimo questo, no? Di Rocchi con l'Inter ci sarei andato cauto, sapendo che forse il risultato sarebbe stato diverso. Guarda, questo non glielo so dire, però insomma è evidente, torno a ripetere, curiosa le modalità di espulsione. Poi è chiaro che Ranieri ha avuto quel momento, no, per parlare con Rocchi e per sfogargli addosso tutta la sua rabbia. Potrebbe anche aver deciso di farlo di proposito. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24. Non è neanche la squadra a cui sto pensando, il Super Depo di Spagnolo, come scrive Alex da Taormina. Dopo. Buongiorno, senta, io vorrei entrare in un nuovo mercato e ampliare il mio giro d'affari. Vorrei delle informazioni. Di che segno è? Scorpione, ma... Bene, cari amici dello Scorpione, oggi è per voi il giorno ideale per concludere buoni affari. Eh no, quando si tratta di affari l'unica cosa che conta è l'affidabilità. Solo l'informazione affidabile rende il business sicuro. Cerved Group, leader della business information, è il punto di riferimento serio, sicuro, affidabile per la vostra azienda. Cerved Group, conoscere per decidere. www.cervedgroup.com. Strade in diretta. Traffico intenso verso tutte le grandi città, proseguono i rientri al termine del weekend, 5 chilometri di coda per un incidente sul tratto appenninico dell'autostrada verso Bologna tra Barberino e Roncobilaccio. Per un incidente anche le code sulla 10, la Genova a Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona. Code per lavori sulla 15 della Cisa verso Parma, sia tra l'innesto con la 12 Genova, Livorno e Aulla, sia tra Pontremoli e Berceto, e come ripercussione ci sono difficoltà sulla 12 per immettersi sulla 15. Anche verso Torino code per lavori sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Châtillon, Saint Vincent e Ver, mentre a Roma ci sono code per un incidente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e l'Ardeatina. Da aggiornare la situazione dei cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria-Latri. L'autostrada è infatti ancora chiusa in direzione Salerno tra Rosarno e Sant'Onofrio e tra Lauria Nord e Lago Negro Nord. La carreggiata sud è tornata interamente percorribile. Ne torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Continua la corsa al rialzo dell'oro, ma c'è un investimento più sicuro e redditizio: le pompe di calore a metano per riscaldamento. Le pompe di calore Robur valorizzano l'immobile perché ne aumentano la classe energetica, contribuendo ad alzarne il valore al metro quadro fino a 100 euro in più. Le pompe di calore Robur a metano ed energie rinnovabili sono l'investimento migliore per valorizzare gli immobili. Documentarsi conviene su www.riscaldamentorobur.it. Tempo di sport. Torniamo con abbiamo sentito prima in diretta Di Carlo, adesso abbiamo in collegamento anche un altro allenatore, grandissimo protagonista di questo inizio di stagione, mi fa molto piacere, anche perché è un nostro amico, Stefano Colantuono. Buonasera mister. Buonasera a tutti, buonasera. Le confesso un timore, sì. Che l'Atalanta potesse staccare il piede dall'acceleratore dopo aver completato, dopo aver coperto il buco. E invece, dopo aver visto la partita di ieri a Roma, mi sono convinto che non è così. Ma no, diciamo dai che ieri la partita di Roma è stata una partita un po' particolare. La Roma aveva bisogno di vincere una partita in casa. L'ho vista molto, partita molto forte, molto aggressiva. L'Atalanta ha fatto la sua, anche sì. Ieri ha fatto, credo, la sua bella figura, al di là del risultato, che forse ci penalizza un po' troppo, perché è vero che nel primo tempo la Roma ha meritato di andare dentro in vantaggio, ma nel secondo tempo la partita è stata molto equilibrata e forse abbiamo fatto qualcosina di più. Potevamo ad un certo momento potevamo addirittura pareggiarla, poi non ci siamo riusciti. Non abbiamo avuto l'inerzia finale ieri per poterla pareggiare, però va bene perché i ragazzi sono partiti molto forte, per cui sono d'accordo. Sono d'accordo. Come lavorerà in queste due settimane? Perché immagino che abbia, insomma, abbia pestato duro, no, sui giocatori, sì, per arrivare a questa pausa in certe condizioni. Forse oltre le aspettative siete arrivati, io immagino. Sì, direi, no? Di gran lunga sopra le aspettative, perché tutti quanti ci auguravamo dopo questa sosta di avere almeno, di aver cancellato la penalizzazione, di avere zero o quantomeno uno per tornare a respirare un po' d'aria. Invece siamo a quattro, siamo enormemente felici, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario e quindi questi, diciamo, 15 giorni ci serviranno per andare a migliorare meglio alcuni a migliorare quei giocatori che sono un po' in ritardo di condizione, perché alcuni giocatori che sono arrivati da noi onestamente la preparazione l'avevano fatta part-time. Sì, part-time. Senta, ma cosa le ha dato più soddisfazione in questo inizio di stagione? Ma guarda, intanto avrei visto i tifosi entusiasti, i nostri parlo, perché hanno vissuto un'estate tremenda. Certo. Noi dopo la vittoria del campionato siamo passati da una festa mega a un grande funerale. Città, a un funerale, bravissimo. Ma fino dopo a ritrovarci su tutti i giornali con insinuazioni. Siamo stati 2-3 mesi a aspettare sentenze, no? Abbiamo fatto altro per aspettare sentenze per l'Atalanta, per Doni, per Manfredini. È stata un'estate infernale, e aver visto il sorriso sui nostri tifosi che ci sono sempre molto vicini per me è stato motivo d'orgoglio, specialmente dopo l'ultima vittoria, quella in casa con il Novara, per cui vorremmo vivere una stagione sempre così. Sappiamo che sarà molto complicato perché il nostro ruolo sarà quello di salvarsi, però insomma speriamo di regalargli momenti belli come abbiamo fatto finora. Ma tra l'altro avete giocato anche uno splendido calcio fin qui e lei lo sa benissimo. Prima di salutare le chiedo invece una considerazione su altri, in particolare sul Napoli. Io sto dicendo che, ma mi sembra la cronaca a dirlo, il Napoli è in questo momento la squadra più forte d'Italia. Lo dicono i fatti, non diciamo nulla, non diciamo un'eresia, insomma, è la verità. È la verità, la squadra che sta facendo meglio, è la squadra che propone un bel calcio, ha degli ottimi giocatori, ha un tecnico bravo, anche in Europa sta facendo cose egregie, quindi possiamo dire tranquillamente che al momento è la squadra migliore del nostro torneo. Invece l'Inter è a fine ciclo e anche questo mi sembra un dato di cronaca. Ma ora non lo so, perché l'Inter è vero che non è partita benissimo, però con Ranieri aveva dato dei buoni segnali, è chiaro che Ranieri è arrivato adesso, va dato tempo a lui magari di lavorare un po' di più, però già caratterialmente si era ritrovata, perché vincere due partite subito non era facile. Ora ieri è vero che ha perso, però la partita onestamente c'è da dire anche che l'espulsione l'ha un po' condizionata, per cui magari ieri il test è poco attendibile, poi comunque ieri l'Inter ha perso con una squadra che dicevamo poc'anzi, oggi è la migliore del campionato, quindi ci può anche stare una sconfitta con Napoli. Un'ultima cosa, la bizzarria della Roma di Luis Enrique può funzionare nel nostro calcio? Lei l'ha affrontata ieri, ha trovato la miglior Roma della stagione, ma può funzionare questa idea? Ma io penso di sì, l'importante è che lo si lasci lavorare, io trovo lui sia un tecnico che ha un'idea, una filosofia e va perseguita e lo devono lasciare lavorare. Ora se si passa, allora la Roma dopo l'Inter sembrava che si risolto i problemi, poi a pareggiare una partita in casa, giù di nuovo Ora ieri ha vinto, di nuovo su, ora magari così si fa poca strada. Io credo che nel calcio ci vuole equilibrio, Luis Enrique lo trovo un tecnico preparato, va fatto lavorare. Mister, la ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a lei. Grazie davvero. Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta, che con il Napoli in questo momento è la squadra che, secondo me, gioca anche il miglior calcio. Guardate cosa vi dico, insieme al Napoli e all'Udinese, naturalmente, che qualche volta la si dà così per scontata da dimenticarla tra quelle che giocano il calcio migliore nel nostro campionato. Luca, Napoli, buonasera. Volevo parlare della partita di ieri sera, Inter-Napoli. Certo. Volevo dire e chiedere allo stesso tempo perché l'Inter non digerisce per niente un eventuale veri torti arbitrali, perché negli ultimi anni ha vinto tantissimo a Siena qualche anno fa, mai con Luca, si danno e si prendono. A me piace meno invece quando poi si può anche far notare, perché lei sa benissimo che nelle logiche perverse del nostro sport, del nostro calcio, si prendono i torti, ci si lamenta, si piange un sacco, ci si piange addosso un sacco, magari si agitano anche certi fantasmi in maniera anche insensata, se vogliamo, si agitano i fantasmi e poi qualcosa torna indietro. Lei lo sa bene, ma anche il Napoli l'ha fatto in passato, Però voglio dire che vedo proprio questo isterismo che non riesco a giustificare, perché se loro analizzano bene le loro cose, negli ultimi anni hanno vinto anche grazie a qualche aiuto che è venuto in maniera involontaria. Io non dico che come tutte le grandi squadre, certo. Infatti, però non vedo che sono stati completamente, diciamo, non lo so come definirli. E poi un'ultimissima cosa, volevo dire che dopo 26 anni ho avuto la soddisfazione che un tifoso del Napoli, della Juventus, mi ha detto, va bene, pure ieri c'era il rigore fuori area, va bene. Io ho detto, ma ti ricordi quando tutte le volte che mi ha detto che nell'85 la Juve non doveva vincere la Coppa Campione perché il rigore è venuto fuori area? Ha detto, purtroppo il calcio è così, dopo 26 anni è stato atto che il calcio può essere anche così e si può avere anche un calcio di rigore fuori dall'area. Solo sì. Questo, grazie. Sì, grazie a lei Luca, grazie a lei. Il calcio è così, lo sappiamo, ma in fondo per me è il suo bello. Poi c'è chi se la prende troppo, si mangia il fegato e questo non fa bene alla salute. Gianluca da Caserta, buonasera. Sì, buonasera, senta, sono un tifoso del Napoli. Sì. Io la ringrazio innanzitutto per avermi fatto intervenire. Niente, volevo dire una cosa, che analizzando i dati oggettivi, se si parlano di olisti, io credo che sia opportuno farli concretamente, perché se si va a analizzare la partita dell'Inter, io sono tifoso del Napoli, dico la verità, il rigore era fuori area. Beh, certo. Punto primo, il Napoli non è questione di essere tifosi o non tifosi, è lì da vedere, insomma. Sì, sì, no, siamo... Allora, il Napoli ha giocato e Obi, è vero, forse anche che la prima ammonizione non c'era, però se si vuole fare i mogliolisti, bisogna essere seri, allora analizzare tutte le azioni della partita e Obi è stato graziato 2 minuti prima sulla ripartenza di maggio dove è stato strattonato e l'arbitro non l'ha ammonito. Quindi se vogliamo fare i mogliolisti, anche se non c'era... No, no, ma io non voglio, Me ne guardo bene. No, ma anche perché sbriciolando la partita in 1000 micro episodi perdiamo di vista tutto quanto, sì, cioè sì, secondo me questo è... Solo dire una cosa, siccome quanti in Italia si stanno appellando alla Moviola, io volevo dire solo una cosa, Obi, anche se non c'è il rigore, la seconda ammonizione andava fuori in campo, che andava in 11 contro 10 nel secondo tempo. Sì. Oltretutto Zanetti ha fatto l'ultimo uomo sulla Vesti, non c'era il rosso, c'era il secondo giallo perché Zanetti era stato ammonito, quindi se vogliamo fare, se vogliono fare i moviolisti, li facciano in modo coerente, perché l'Inter in campo il secondo tempo, se non, allora il rigore non c'era, l'espulsione di Obi c'era, perché doveva avere essere la seconda ammonizione, perché se il rigore Gianluca, però non vogliamo, lei, la sua premessa è non vogliamo fare i moviolisti, non vogliamo fare i moviolisti, non ho voglia di sbriciolare la partita in 1000 micro episodi, perché altrimenti è come guardare la partita con gli occhiali scuri, non vedo niente, non mi interessa vedere una partita di calcio in quella maniera. Io posso notare che il primo giallo Obi è eccessivo, poi non so se è stato graziato prima, graziato dopo, eccetera. Il rigore non c'era perché era fuori area, questi sono dati di fatto oggettivi e tant'è, il Napoli ha incassato dei favori arbitrali come fanno tutte le grandi squadre, ma anche quelle medie, anche se si vedono meno. Ha vinto da grande squadra a Milano, non ha vinto... e questo sembra paradossale, ma è così, non ha vinto perché Rocchi gli ha regalato la vittoria, ha giocato una grande partita a San Siro, una partita bella, molto bella, che è stata rovinata da Rocchi, altrimenti magari avrebbe vinto lo stesso il Napoli senza tutto questo cancan. Da ieri sera abbiamo tratto una cosa, e cioè che in questo momento il Napoli è una grande squadra, superiore a tutte le altre squadre italiane in questo momento. E abbiamo avuto la conferma del fatto che l'Inter, al di là di 2 vittorie sull'onda emotiva dell'arrivo di Ranieri al posto dello sgradito, Amorati alla squadra, Gasperini, al di là di queste 2 vittorie ci sono ancora un sacco di problemi che sono lì sul tavolo da risolvere. Andate a leggervi la quantità dei gol subiti, mi sembra siano 11, il Milan, siamo alla terza sconfitta, il Milan l'anno scorso alla fine del campionato aveva subito 24 gol. Ci fermiamo per il giornale radio. Io mi arrendo, ragazzi, mi arrendo a Vicky da Milano che mi scrive: sono in macchina da 4 ore, dica qual è la squadra che ricorda questo Napoli, devo andare a far la spesa. 349-238-6666. Le vostre telefonate 800-24-0024. Giorgio Lucchi in redazione, saluto ora Filippo Aureggi che è arrivato in regia. Vi leggo la formazione. Canizares in porta, Torres, Ajala, Pellegrino e Carboni, linea difensiva, Albel da Baraja, Rufete, Vicente. E poi Aymar trequartista e Mista davanti, allenatore Rafa Benitez. Dunque non il Valencia di Hector Cooper, che perse in fondo, era una squadra che bellissima, di cui Hector Cooper ha messo le fondamenta, ma perdente, perse 2 finali di Champions League consecutive 2000-2001 e poi l'anno successivo cominciò a vincere, vinse la Liga Spagnola con Benitez e poi bissò quel titolo. Mi sembra che questo Napoli, ovviamente ci sarà un plotone di tifosi del Napoli in questo momento che avrà le mani nei pantaloni, però insomma fatemi giocare. Mi ricorda quel Valencia che si inserì nel vuoto di potere che ogni tanto accade delle due grandi dominatrici del calcio spagnolo, e che con una squadra che aveva un po' le caratteristiche che vedo nel Napoli, squadra della buona borghesia spagnola, gestita sul campo in modo classico, forse un po' antico, con titolari e riserve ben precisi, con una rosa giusta e non gigantesca, con stelle costruite, create in casa, create attraverso il mercato, creato attraverso il settore giovanile. Questo magari non è ancora il caso proprio del Napoli, anche se De Laurentiis vorrebbe fare la cantera napoletana, vedremo se ci riuscirà, me lo auguro. Molta ambizione, molta fame, tutte caratteristiche, e giocava un gran calcio, un calcio fatto di grande intensità, di convinzione, di voglia alla fine di vincere e di convinzione di riuscirci, perché il vero elemento di novità secondo me di questo Napoli rispetto a quello dell'anno scorso sta proprio in questo 6-1 rifilato alle due milanesi. L'anno scorso non aveva il coraggio di guardarle negli occhi, si arrendeva all'assenza che qualche volta capitava delle sue stelle, soprattutto per squalifiche, più che per infortuni che in realtà al Napoli negli ultimi due anni non, e anche qui non voglio prevedere futuro, mi limito a fare la cronaca di quanto è passato, di quanto è stato il passato. Il Napoli, uno dei segreti di questo Napoli è evidentemente un gruppo di collaboratori di Mazzarri bravissimi, perché questo Napoli non ha l'anno scorso mai avuto dei grandi cali di condizione fisica, pur avendo un numero di giocatori limitato e un gruppo preciso di titolari e di riserve, e non ha mai avuto nemmeno grandi infortuni, soprattutto muscolari. Anche in questo caso mancava Cavani per una botta presa. Quindi il mio paragone che vi butto lì è questo. Ditemi adesso se siete d'accordo, se ne avete voglia. Claudio, e se non dovete fare la spesa. Claudio da Milano e Enrico da Torino. Claudio, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Una domanda a lei e due considerazioni. La prima, cosa ne pensa della partita di ieri della Roma? Io sono un tifoso giallorosso. Della Roma. E le due considerazioni sono, la prima che dispiace vedere Boriello entrare gli ultimi 10 minuti. A me lo dice. Credo che il buon Borini non valga neanche la metà di Boriello. Qualcuno mi ha rimproverato perché ho dato del brocco ad Osvaldo. Io sospendo il giudizio, nel senso che Osvaldo è un giocatore che a me non piace in maniera particolare. Mi sembrava sopravvalutato quando giocava dalle nostre parti. È andato in Spagna, ha fatto molto bene, la Roma l'ha ripreso in maniera anche incomprensibile, se vogliamo, perché dall'esterno io non capisco, se hai uno come Boriello perché devi andare a prendere Osvaldo. Luis Enrique ci crede, è uno dei suoi titolari fississimi, dunque Osvaldo gioca, Boriello invece fa il panchinaro. Mi sembra davvero sprecato Boriello come panchinaro. Quando Osvaldo avrà fatto quello che ha fatto Boriello nelle ultime stagioni in Italia, allora rivediamo tutti i giudizi, se ci riesce. Dica. 10 milioni di euro spesi pressappoco per Osvaldo, probabilmente si sarebbe potuto comprare qualcosa di più di meglio. E la seconda considerazione è, mi manca da Matti Riese, perché anche lì siamo. Jose Angel è un buon giocatore, ma secondo me non vale Riese. E una cosa che ho notato, belli i primi 20 minuti, non ci credevo. Il secondo tempo ho visto altri 20 minuti in cui non capivamo assolutamente cosa stava succedendo, l'Atalanta era fantastica, sì. Dopodiché è uscito Totti e come d'incanto con Pizzarro c'è stata la quadratura del cerchio, sì. Ha ricominciato a giocare. E infatti Pizzarro ho l'impressione che sia determinante, anche per il calcio che vuol fare Luis Enrique, Mi sembra un giocatore perfetto per questa, per l'idea di calcio che ha Luis Enrique, che l'ho detto altre volte, sta tentando un'impresa molto difficile, cioè quella di costruire una casa dal tetto, cioè di trapiantare il modo di giocare che lui conosce, quello del Barcellona. Non ho detto che non penso abbia la presunzione di trasformare la Roma nel Barcellona, perché questa sarebbe follia. Però sta tentando di dare alla Roma quell'immagine, no? Di costruire qualcosa che assomiglia al modo di giocare del Barcellona. Se ci riuscirà non lo so. Certamente la prossima curva sarà molto importante, quella del derby, perché potrebbe dare definitivamente mettere definitivamente benzina in questo progetto, tanta benzina in modo da dare spazio a Luis Enrique per continuare con la convinzione dei giocatori e della società, cosa che non è mai mancata, questo, questo progetto molto ambizioso, molto strano, molto interessante, oppure potrebbe subire una brusca frenata il progetto della Roma di Luis Enrique. È ancora qualcosa di embrionale, non mi sorprende neanche quanto lei ha visto ieri, ha correttamente insomma, descritto, cioè una squadra che procede un po' a strappi, perché quel modo di giocare così strano e anomalo per il nostro calcio non può essere assimilato in due giorni, neanche in due mesi, forse nemmeno in due anni, no, forse due anni sono tanti, però ci vuole pazienza. È un materiale interessante quello che Luis Enrique ha a disposizione dal punto di vista anagrafico e dal punto di vista del talento. Enrico da Torino, buonasera. Buonasera dottor Genga. Io volevo fare un pochettino, io sono interista, però permetto già che l'Inter gioca male, però sia Palermo, Novara, poi ieri sera si è toccato proprio il fondo, secondo me e secondo anche e tutti i commenti che fanno in giro, non so se cosa ne pensa dell'Inter? No, di questa situazione che io sono interista, però dico già che l'Inter gioca male. No, però, insomma, gioca male. L'Inter ha un sacco di problemi, ma non c'è molto da cercare. Basta guardare, lo ripeto per l'ennesima volta, il numero dei gol subiti in questo inizio di stagione. Sono 11 e 11 gol subiti sono un'enormità. Sappiamo che ne ha presi a Palermo, a Novara e ieri sera. Quindi mi sembra che i problemi siano piuttosto evidenti. È una squadra che, ma Ranieri stesso l'ha detto ieri in difesa, abbiamo ancora molti problemi, c'è chi sale, c'è chi scende, non ci muoviamo in maniera armonica, eccetera. C'è un centrocampo che è sempre raffazzonato, complice anche gli infortuni, c'è Cambiaso schiacciato sulla linea di difensore a fare praticamente lo stop per aggiunto. È una squadra che non è equilibrata in questo momento e la conferma sta nel tabellino gol subiti, mi sembra piuttosto chiaro ed evidente. E aggiungiamo a questo che c'è una mescola offensiva, anche qui Sneijder che manca, che prima era utilizzato fuori ruolo, poi è arrivato Ranieri, si è fatto male, i ricambi non sono esattamente all'altezza, perché questo Alvarez non mi sembra esattamente un crack, un giocatore argentino di 24 anni che è arrivato e non era titolare nemmeno nella sua squadra di appartenenza in Argentina. Comincio ad avere dei dubbi che sia davvero una pesca miracolosa, anche se dicono l'Arsenal fosse interessata a lui. Non sono arrivati i giocatori in grado di aprire un nuovo ciclo, questo si sta chiudendo con quello che c'è. Traffico. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi? Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila con una tecnica non invasiva biologicamente guidata e curala con il laser grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita nella sede più vicina a te all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo, salva i tuoi denti. 800 090 106. Strade in diretta. Traffico di rientro sulle autostrade, particolarmente intenso in Liguria, con code in direzione Genova, e sulla 10 ci sono code anche per un incidente verso Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona. Disagi anche sul tratto fiorentino della 1, code a tratti tra Firenze Sud e Roncobilaccio in direzione Bologna. Traffico intenso in direzione Milano, sulla 4 code a tratti tra Ospitaletto e Grumello. Per lavori code sulla 15 della Cisa verso Parma, tra l'innesto per la 12 Genova-Livorno e Aulla e tra Pontremoli e Berceto. Ripercussioni poi sulla 12 con code proprio all'innesto per la 15 della Cisa. Anche verso Torino code per lavori sulla 5 tra Châtillon e Ver, sulla 6 Torino-Savona code sempre per lavori verso Torino tra Millesimo e Ceva. Un incidente infine causa dei rallentamenti delle code a tratti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e lo svincolo Ardeatina. Per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. La BMW Serie 1 parte per il secondo giro, più attraente, più spaziosa, più efficiente, più tecnologica. Più attraente con i suoi dettagli stilistici di grande sportività e rinnovata eleganza. Più spaziosa grazie alla maggiore abitabilità e a un bagagliaio cresciuto di 30 litri. Più efficiente con i dispositivi BMW Efficient Dynamics, come la funzione Eco Pro Mode, che supporta la guida a consumo di carburante ottimizzato. Più tecnologica con il sistema BMW Connected Drive, che ti permette di essere sempre connesso con il mondo. La nuova BMW Serie 1 è la vettura ideale per le flotte aziendali, perché garantisce un consumo limitato di carburante e ridotte emissioni di CO2, senza rinunciare al piacere di guidare BMW. A tempo di sport. Vi ricordo di venirci a cercare anche su, venire a cercare naturalmente a tempo di sport anche su Facebook e Twitter. Stiamo continuando a parlare grosso modo di quanto abbiamo visto ieri sera, però vorrei cominciare a guardare, con magari facendo un tuffo in ciò che è stato, nella partita che ci aspetta questa sera, perché anche per Juventus e Milan sarà una giornata importante. La Juventus che gioca la prima grande partita in quello stadio, anche se ieri ovviamente Conte ha detto ma no, sono tutte grandi partite, tutte importanti, insomma solite banalità, solite frasi fatte che ti aspetti da un allenatore dalle nostre parti. Giocherà una partita carica di tanti significati emotivi, una partita dalla quale non poteva mancare, infatti non mancherà Alessandro Del Piero, che farà coppia offensiva con Vucinic, salvo sorprese dell'ultimissima ora. Dovrebbe giocare Pirlo, nonostante le non perfette condizioni fisiche, è l'uomo più atteso e in questo momento è anche un uomo fondamentale, anzi addirittura condizionante per la Juventus. Il Milan sta continuando a risolvere i suoi problemi, ha recuperato Ibrahimovic, recupererà questa sera anche Boateng, è un Milan più simile a se stesso. Certamente non è brillantissimo, la Juventus ha una grande occasione per fare come l'avrà la Roma tra due settimane con il derby, un bel pieno di autostima. Per vivere insomma, il pre-partita, sentiamo questo riassunto curato da Franco Piantanida. Ho scelto la Juve perché è una squadra che vuole tornare a vincere. Io sono uno che vuole vincere, volevo cambiare, volevo stimoli nuovi e la Juve mi dava questa opportunità, dato anche gli ultimi anni di non vittorie. Come dicono tutti, il tempo è l'unica cura possibile. Juventus è un club di uno dei best in the world e questo di top top. Bellissimo vincere, perché Milan non ha vinto 7 anni scudetto e poi erano non disperati, però volevano vincere questo anno e al fine abbiamo vinto, questo è più importante. Per Baresi, guardate Vieri, grande progressione la sua, tocca soltanto con il piede Seba Rossi, palla gioca di carambola sul palo ed è 6-1 in favore della Juventus. Mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa, ma io non aprirò. Il Milan ai calci di rigore vince. Ancelotti e Inzaghi consumano la loro rivincita sulla Juve. La delusione per Lippi è tremenda, così come per tutto il popolo bianconero. Prossima lo troveremo nell'arena di Domenica Inn, oggi può essere ancora qui con noi Massimo Gilletti. Ciao, ciao, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Senti, ti è piaciuto questo tuffo? Beh, bello, no? Però la partita di oggi forse può essere il primo vero ponte sul futuro per la Juventus e per gli juventini come te. Sì, il primo ponte sul futuro, oppure qualcosa di più pericoloso, nel senso che è una squadra molto fragile che deve dimenticare il suo passato, deve dimenticare il suo passato recente, da dove arriva. Troppe volte ho visto la Juventus fare partite di combattimento con le grandi squadre e poi perdersi lungo il percorso, ecco, quindi siccome si è esaltata molto questa Juve, io credo che bisogna essere molto attenti. Sì, sono d'accordo, è ancora molto fragile, mi sembra la parola giusta, e non sono ancora convinto che Conte, con l'inesperienza che ha, non peraltro, possa essere traghettatore giusto per questo momento così complicato. Ma non lo so, perché poi il calcio, le alchimie sono molto diverse da quelle della vita, basta un nulla per cambiare il finale di una partita o l'andamento di una partita, come abbiamo visto tutti ieri sera un Inter-Napoli, no? Basta una decisione arbitrale che cambia il volto di una partita, quindi io penso che Antonio abbia, invece sono convinto che Antonio può incarnare quella voglia di cambiamento, di rinnovamento nella zucca proprio, nella testa, nei meandri, nei labirinti che i giocatori hanno con le loro menti, perché conosce e sa cosa vogliamo fare e vincere noi tifosi. Certamente, adesso l'Inter comincia a dire ci stanno facendo pagare un po' del nostro passato, quando è che finiremo queste storie secondo te? Ma non finiranno mai, finché non si prendono, io vedo adesso, non voglio tornare sul discorso, perché guarda, io penso che questo sia un paese che non ha ancora risolto i problemi della seconda guerra mondiale, siamo ancora a parlare di fascismo, cose, invece il paese va a rotoli e ci fermiamo ancora non siamo in grado di superare il nostro passato, però certamente... Torcicollo cronico. Sì, però sai, quando tu senti certe intercettazioni, tipo nel dubbio fischi a favore dell'Inter, mi riferisco a Rodomonte, all'arbitraggio al famoso Juve-Inter, ecco, allora io mi chiedo semplicemente perché non sono mai state sbobinate queste intercettazioni e sono sempre sbobinate intercettazioni contro la Juve. Questo non cambia nulla ormai. Però ci fa capire come questo paese abbia sempre due marce parallele, ogni tanto una si ferma e una va avanti. Certamente. Comunque pensare al passato a noi non serve, ma noi come juventini dobbiamo convogliare l'energia in qualcosa di diverso. La Juventus comunque è stata brava nel progettare il futuro partendo dallo stadio, perché è la vera grande novità stagionale, è anche l'adrenalina, l'emotività che può dare una mano alla Juventus. E ieri Berlusconi ha detto brava la Juve, costruire uno stadio in questo paese non è facile, c'è una burocrazia, non ricordo il termine che ha usato Berlusconi, però c'è una burocrazia che rende questo Berlusconi molto difficile. Una cosa del genere, dopo che è stato per anni al governo e non è riuscito a eliminarla, vuol dire che questo è un paese veramente senza molte speranze da questo punto di vista. La Juve ha anticipato i tempi, come spesso è accaduto, la famiglia Agnelli, devo dire, ha fatto una scelta che è fondamentale, visto che comunque sapeva benissimo che probabilmente nelle grandi coppe non ci sarebbe entrata, forse quella era l'unica strada per avere un certo tipo di futuro. Adesso però bisogna entrare nelle coppe, bisogna dare continuità. Io credo che la sfida del campo sia anche nel nuovo campo sia anche una sfida culturale, perché i tifosi devono saper gestire e vivere uno stadio del genere. È intollerabile che ci siano tentativi anche quel tentativo di dare uno schiaffo a Viali, ecco. Di Vaio. Io penso che questa sia anche una prova questa sera di civiltà. Sì. Dobbiamo dimostrare che siamo degni di uno stadio del genere. Certo, devono saper gestire la loro libertà. È altrettanto vero che in uno stadio del genere se sgarri ti beccano ed è molto più facile. Quindi. Sì, ma poi, certo, questo sicuro, ma poi questo è un paese dove se ti beccano non succede molte volte troppo, quasi nulla. Quindi è l'altra, un rovescio di una medaglia che troppe volte ci lascia allibiti. Guardando al campo per chiudere, caro Massimo, dicevo prima Del Piero, per tutti i risvolti emotivi che ha questa sfida, la prima grande partita in quello stadio, il primo confronto diretto contro una grande, eccetera eccetera, in una partita così Del Piero non poteva mancare. Conte l'ha capito, a quanto pare. Ma Conte è molto attento, ascolta i giocatori, quando parli con i giocatori, quando respiri e hai respirato anche fino a qualche tempo fa il centro del cuore di una squadra, sai che ci sono certe partite dalle quali non si può prescindere dai giocatori carismatici. Oggi l'ha detto anche, mi sembra, Allegri poche ore fa, non conta il fisico, conta la mente, come in tutte le cose poi vere della vita. Ci sono partite dove la mente viene prima del fisico. Grazie Massimo, buon lavoro a Domenica Inn. Ma speriamo di poter andare in onda, ciao. Ciao Massimo. Ciao, arrivederci. Abbraccio a Massimo Gilletti. Torno a parlare con gli ascoltatori oggi tantissimi, mi fa molto piacere. 800 24 00 24. C'è chi scrive, Roberto da Arezzo, per le musiche fatevi consigliare da Barisoni che è meglio. Provvederemo. Franco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Ma io vorrei tornare brevemente sull'Inter, poi anche parlare di un'altra cosa. Diciamo che l'Inter, secondo me, ieri sera, io non sono un tifoso interista, è rimasta un po' vittima anche di se stessa, perché se vogliamo l'Inter ha sempre basato molto il suo gioco anche sul fisico, sull'intimidire l'avversario. Guardando in faccia i vari Samuel, Lucio, sembrano più dei pugili che dei giocatori di calcio, e però poi finiva l'avversario con la tecnica, con un grande gioco, eccetera, mentre gli altri magari si perdevano nella rabbia e nella veemenza. Invece ieri sera, se vogliamo, il Napoli comunque ha fatto 3 gol. Uno è stato regalato, ma gli altri 2 sono stati legittimi, quindi no, il fatto è che se devi finire gli altri con la tecnica e gioca Alvarez, non voglio insistere su questo nome, al posto di Snyder, diventa un po' complicato. E poi volevo dire una cosa, io non sono al corrente delle ultimissime notizie su Kobe Bryant, se verrà veramente in Italia. Penso che comunque, diciamo, in questo caso particolarissimo lo spettacolo debba prevalere sull'elemento poi della regolarità del campionato, perché abbiamo una fortuna, guardi, incredibile. Dopo ne parliamo, perché abbiamo in programma dei collegamenti da New York e poi con un nostro abituale amico nell'ultima parte del nostro programma. Sa bene come anche questo argomento di cui abbiamo parlato ieri, l'altro ieri, di cui torneremo a parlare, questo sia un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Se verrà Kobe Bryant, io come lei me lo auguro. Poi non stiamo a dire la regolarità del campionato, insomma è un campionato irregolare per regolamento, se mi passate questo giro di parole orrendo, perché un campionato in cui per regolamento ti consentono di cambiare roster, di tesserare giocatori nell'ultima parte del campionato, alla vigilia dei playoff, eccetera eccetera, già di per sé è di regolare a pochissimi. Direi che in questo momento il basket italiano si trova di fronte ad un'occasione per, non certo per risolvere i suoi problemi strutturali, però per attirare grande attenzione, per farsi un'iniezione di autostima, per provare anche ad accendere le luci sui suoi problemi. Questo arriverebbe con una grande mossa di immagine, di marketing, che è quella portata, che sarebbe quella portata dal giocatore più popolare del mondo. Non so se si verificherà, mi auguro di sì. Carlo da Napoli, buonasera. Buonasera. A me è piaciuto moltissimo questo paragone fra il Napoli e il Valencia. Effettivamente la squadra nuova del campionato è certamente il Napoli, anche perché ieri, a prescindere dalle valutazioni arbitrali eccetera, ha messo fuori un giocatore di valenza mondiale che è Hiller. E in ogni caso ha dimostrato che questo centrocampo del Napoli è certamente di valore internazionale. Ieri abbiamo visto fare una cosa da Maggio il migliore in campo, secondo me, ieri. Come? Migliore in campo Maggio, secondo me. Ma Maggio ha fatto una cosa stupenda, che mi ha ricordato per i giocatori del Brasile degli anni 60-70, perché quel tocco fatto tenuto al portiere del Brasile, quindi è simbolico, una sua valenza anche generale, che fa capire che qualcosa di nuovo sta dicendo questa squadra. Qualcosa di nuovo, anche non certo per non solo per qualcosa nuovo, di, qualcosa di nuovo e di classico al contempo, perché è una squadra gestita secondo criteri classici, che sono quelli di Mazzarri, quindi ci sono 11 titolari ben identificati, ci sono le stelle, ci sono quelli che corrono, ognuno fa il suo. Può essere anche un punto di debolezza, nel senso che la qualità di chi subentra non è la stessa, è un Napoli gestito secondo criteri classici, è un Napoli che va incontro ad un rischio. Non vorrei che il sogno europeo, che farà benissimo a cavalcare fino in fondo, possa drenare tante energie. Questo Napoli può davvero quest'anno, e ne abbiamo avuto la prova in questo inizio di stagione, può davvero competere fino in fondo per lo scudetto, perché non credo che l'Inter possa essere competitiva per questo scudetto, lo dico francamente. Il Milan è la squadra più forte, potrebbe anche essere un duello Milan-Napoli, tra Milan e Napoli. Intanto Napoli-Milan sappiamo quanto è finita. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlarne insieme. 800-24-0024, numero verde. Sono Andrea Santoni, responsabile IT della Farmigea. Il nostro gruppo farmaceutico è la seconda realtà italiana del settore oftalmologico. 4 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, abbiamo scelto Welcome Italia per l'affidabilità delle persone e per il servizio clienti che risponde sempre in trisquilli. Con Welcome Italia ci sentiamo al centro dell'attenzione, proprio come lo sono il benessere e la salute dei nostri clienti. Per la cura degli occhi, affidatevi tranquillamente ai nostri prodotti, ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza. Chiama l'800 945 945 o visita il sito welcomeitalia.it. Nuce International, l'appuntamento di riferimento del Sud Europa e del Mediterraneo per l'industria nutraceutica e degli integratori alimentari. Torna a Fiera Milano City. Nuce Biotech, l'evento fondamentale per tutta l'industria italiana. Ti aspetta dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano City, solo per operatori. www.nuce.pro. Paola Cortellesi uno prima, ciak! Ma tu hai visto che mare blu? Mi ha un blu, né carne né pesce. Eh no, eh? Lei il blu è equilibrato. Vibrio blu, la blu, quel blu ganzo. Anzi, ganzone. Blu leggermente frizzante, rossa frizzantissima. Acqua minerale, brio blu. Rossa o blu, mi garbi tu! Fuori concorso alla 68esima mostra del cinema di Venezia. 01 Distribution presenta... Quella è tutta gente diversa. Non può essere come noi. Il villaggio di cartone. Un film scritto e diretto da Ermanno Olmi, dal 7 ottobre al cinema. A tempo di sport. Molti anche i messaggi oltre alle telefonate, eh? Ad esempio, peccato sempre su Kobe Bryant, poi torneremo sull'argomento, dovesse arrivare in Italia sarebbe per un periodo troppo breve per poter rilanciare il nostro basket. Beh, per rilanciare il nostro basket ce ne vuole, però potrebbe essere un inizio, una estate indiana, come ho detto ieri. Tra una settimana, tra l'altro, inizia il campionato, come sapete, e noi riprenderemo il nostro appuntamento della domenica sera dalle 20.30 alle 21 per raccontarvi la giornata del basket. Sarebbe bellissimo farlo con Kobe Bryant in campo con la Virtus Bologna, ma questo è un dettaglio. Sarebbe importante farlo con Kobe Bryant in campo nella Lega Italiana, sia a tempo determinato, pazienza, chi se ne frega. Io intanto vado in Spagna da mio amico Filippo Maria Ricci, per noi per la Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ti confesso che non ho fatto in tempo a leggere il tuo pezzo di oggi, solo il titolo, Muri scopre la grigliata. Cosa vuol dire? Ma no, è che venerdì hanno fatto una grigliata tra i due allenamenti. Ah. Però la cosa più bella è questa, che definisce bene Mourinho. Ieri era in conferenza stampa, allora ovviamente gliel'hanno chiesto. Ho detto sì, noi avevamo programmato 2 allenamenti. La mattina si sono allenati talmente bene che li abbiamo premiati con una grigliata. E allora su Radio Marca, che sono abbastanza simpatici, hanno cominciato a prenderlo in giro dicendo: ah sì, chiaro, tutto pronto. Dice: io c'ho un po' di cipolla qua, 2 chorizitos, no? 2 salamini, una ciuletita, no? Tutto pronto, era per caso, eh? E li prendono in giro. E alla fine mandano poi un intervento di un giornalista a una trasmissione televisiva della sera prima. E nel quale questo qua annunciava bellamente che il giorno dopo sarebbe stata doppia sessione più grigliata tra le 2 sessioni. Allora dicevo: ma perché deve dire queste bugie che sono un po' inutili, no? Dice: ma l'avevamo preparato, volevamo farlo, basta. Sì, sì, sì, sì. No, che poi ha visto l'Inter ieri sera e non ha digerito. Vabbè, certo, gli è rimasta lì la ciuletita. Che la consoletta gli è rimasta un po' lì. Oggi è stato, ovviamente, tutti hanno detto: Ranieri ha fatto il Mourinho. In che senso? No, ieri sera ha fatto lo show, si è fatto buttare fuori. No, durante, cioè, espulso nell'intervallo, è andato dall'arbitro. Sì, sì. No? Detto... Beh, adesso sono amici, no? Come no? Come ci ha detto Mourinho, che gli augurava ogni bene. Sì, come no. Tanto leggevo prima che un'agenzia, prima che Ferguson resta al Manchester United, l'ha detto lui, per altri 3-4 anni, immagino che sia un altro motivo per non digerire per Mourinho. Sì, rimangono poche squadre. Insomma, se poco poco il Manchester City comincia ad andare bene, sì. I posti sono pochi. Sì. Vabbè, resterà qua, magari vince tutto qua. Bah, qualche dubbio me lo, ce l'ho e me lo tengo, caro Filippo. Senti, ma del Napoli che cosa si dice? Si dice in Spagna che ha pettinato il Villarreal in settimana. Beh, quello era ampiamente previsto e prevedibile, però se ne è parlato molto bene. Soprattutto del trio meraviglia davanti, comunque viene considerato il adesso è ancora tempo di una golondrina non fa primavera, che sarebbe la rondine. Sì, sì. Però se ne parla. Sì, prima l'ho paragonato al Valencia di Benitez, no? Capace di inserirsi in un vuoto di potere tra i due re litiganti con grande saggezza. Il Valencia di Benitez, sfruttando il lavoro del povero Hector Cooper, è riuscito a infilarsi tra Barcellona e Real Madrid e a costruire, non dico una dinastia, però un piccolo ciclo. Sì, no, in questo senso sì. Poi come gioco spero che il Napoli sia più divertente del Valencia di Benitez. Glielo auguro ai tifosi, a parte che in realtà forse vogliono solo vincere, del gioco gli interessa poco. Però quest'anno è così. Quest'anno è, non c'è un, diciamo, un dominatore. Certo, non c'è una squadra egemone, con l'Inter che è finita, il Milan che è la più forte ma deve dimostrarlo. E la Juventus si riparte, no? E quindi magari l'anno prossimo la Juventus sarà il rivale da battere, lo stesso vale per la Roma che è ripartita. Esatto. Il resto... No, può essere l'anno buono, può essere l'anno buono per il Napoli se non si invaghisce troppo di quella meravigliosa donna che era inarrivabile, che era Champions League, buttandovi, rovinandosi, ecco, quanti ne hai sentiti di quelli che si rovinano per donne impossibili? Certo, no, adesso però sai, con un girone così duro, appunto, o esce, allora dici non si rovina, però se passa può essere anche importante, può galvanizzare, insomma, può dare tanto morale uscire da un girone così. Sicuro. Quindi cioè, passare, dico, andare agli ottavi dopo un girone così, insomma, importante. Secondo me gli farebbe bene a livello di crescita... Perché sennò, se magari arriva terzo, si ritrova in Europa League, qualche pensiero negativo gli viene. Sicuro. Io spero con tutto il cuore che passi il turno e una grande primavera. Per chiudere, Filippo, due chiacchiere sul Barça. Mi sembra che anche Fabregas abbia fatto crack. Esatto, sì, è la quinta lesione allo stesso muscolo dei vari giocatori. Però Guardiola dice che sono in media più o meno, non si è preoccupato più tanto. Certo, la sua squadra ogni volta che più o meno gioca vince 5-0, quindi c'è un muscolo più o meno, però ora sono contati. Comunque tanti infortuni anche a Real Madrid, per esempio, quindi per cui vediamo, adesso aspettiamo stasera il Barcellona gioca a Gijón e poi il Madrid a Barcellona con le spagnole. Grazie Filippo, alla prossima. A voi. Un abbraccio, buon lavoro. Grazie Filippo Maria Ricci. Il Napoli al completo, Milan con 13 infortunati, non dirlo è da ipocriti, scrive Gianmarco. Sì, sarà uno degli elementi di forza del Napoli che nelle ultime stagioni, grazie a, come dicevo prima, probabilmente al lavoro molto approfondito che fanno, riescono ad essere sempre in buone condizioni fisiche e alla buona sorte magari. Però resta il fatto che il Milan avrà avuto anche 13 infortunati, il Napoli sarà stato al gran completo, però alla fine parla il tabellone e dice Napoli 3, Milan 1, Inter 0, Napoli 3, 6-1 alle milanesi in questo inizio di stagione, e sono messaggi che contano, secondo me. Giovanni da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Marco da Ferrara, buonasera. Proviamoci. Buonasera. Dica. Volevo parlare del fatto che lei ha esaltato l'iniziativa imprenditoriale della Juventus per il nuovo stadio. Sì. Vorrei che parlaste anche del fatto che questo stadio, cioè l'area su cui sorge questo stadio, che è un'area edificabile di Torino, è stata regalata alla Juventus per 3,73 euro, mi pare, al metro quadro, che è il prezzo che costano i terreni agricoli qua in una zona di Ferrara, i terreni agricoli. Quindi, fare impresa così. Cosa c'è sotto, quindi? Non lo so, vorrei che la stessa cosa venisse fatta anche con il Torino, che regalassero il Philadelphia, visto che si tratta di una società comunque gloriosa, che invece viene perennemente trattata come il figlio del dio minore, per cui guai a offuscare. Ha capito? Per cui parliamo pure dello stadio, ma approfondiamo un po' l'argomento, perché fare impresa così, in tanti avrebbero voluto questo regalo. Quindi lei dice la Juventus favorita a Torino nella terra dei re, no? Ci non sono ne parliamo, re non ne parliamo, beh, insomma, lo re dice, non Stalieri. È solo questo fatto. Sì, no, io mi limito... Come mai una grande società come il Torino non è mai stata posseduta da un gruppo industriale forte, potente, beh, perché? Questo non glielo so dire perché non è mai stata, no, non credo che sia stato boicottato ogni iniziativa relativa al Torino. Certamente la Juventus avrà avuto delle agevolazioni, finanziamento e credito sportivo, avrà fatto tutti i suoi percorsi, tutti i percorsi necessari. Io mi limito a notare che c'è uno stadio di proprietà in Italia, non mi dica il Giglio di Reggio Emilia, che tra l'altro è andato all'asta fallimentare, mi pare sia all'asta fallimentare, una cosa del genere. Allora, la Juventus è il primo grande club italiano ad avere uno stadio di proprietà. All'estero, dove magari non so se gli regalino i terreni oppure no, all'estero ormai da anni hanno fatto degli stadi di proprietà la base su cui costruire qualcosa di serio e di importante. C'è un club che è la Juventus che è riuscita a fare questo. Se poi vogliamo andare a cercare che cosa c'è sotto quello stadio, è giusto farlo, è legittimo farlo, però alla prova dei fatti questa sera si giocherà il primo grande match in uno stadio di proprietà ed è un evento, se vogliamo, storico, in qualche misura. Giovanni da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sulla questione Bryant, perché io ovviamente sarei contento di vederlo per una questione prima di tutto tecnica, poi di promozione e tutto. Però bisogna raccontarle bene. Adesso io non ho seguito le trasmissioni ieri, quindi magari voi avevate anche detto qualcosa, però sugli altri mezzi di informazione è stata raccontata un po' male. Cioè, Sabatini ha fatto un'operazione geniale, no? Da ogni punto di vista, col piccolo particolare che ha fatto un'offerta economica in cui una parte è basata su una serie di mancati introiti delle altre squadre in trasferta. Cioè, per portare Bryant in trasferta, Sabatini chiede un contributo per coprire l'assicurazione di Bryant, la possibilità di stabilire lui i prezzi e poi di dividere l'incasso. Tutte cose che sono legittime, con un piccolo particolare, che non aveva parlato in Lega prima. Cioè, si è fatto bello con i soldi degli altri, lei dice. E questo è il punto. Allora, io non ho sopportato, mi è ricaduto, cioè è ridiventato il Sabatini che conoscevo, nel momento in cui venerdì esce fuori dicendo no, qua però mi fanno saltare tutto perché due società, tra cui Varese, non ha accettato la modifica di calendario. Che è l'ultimo dei problemi, perché in realtà su 16 società a cui aveva chiesto, 8 hanno risposto. Se hanno detto di sì, 2 di no, Varese e Cremona, ma altre 8 non hanno nemmeno risposto. Quindi, cioè, quello che voglio dire, tanto è vero che anche sui siti americani così il ma discorso, lei vorrebbe vedere Kobe Bryant in Italia? Io o lo no? Vorrei vedere, ovviamente. Vorrei però anche mantenere la regolarità di un campionato, per quanto ci si possa venire incontro sul calendario. Più che altro io non ne farei una questione di regolarità, Giovanni, ne farei una questione di capire esattamente quali sono i termini di questo contratto in maniera molto chiara e molto pubblica, perché mi sembra stiamo un po' andando avanti sui si dice, non c'è molta chiarezza. Una volta resi chiari i termini di questo contratto, cioè che siano, è ovvio che non deve danneggiare nessuno, ci devono essere condizioni eque, no, in un investimento di questo tipo, non può pretendere Sabatini di fare il colpo del secolo con i soldi degli altri, e questo mi sembra evidente, ma non mi sembra nemmeno che questo sia in discussione. Non vorrei però che tutto saltasse per piccole liti interne, perché credo che un mese e mezzo di Kobe Bryant in Italia non vorrà dire nulla ai fini della stagione dal punto di vista agonistico, non conterà nulla, conterebbe invece moltissimo per il basket italiano tout court, e non mi dà fastidio anche sentire della demagogia come quella, però quei soldi perché non li investiamo nei settori giovanili, quei soldi perché non paghiamo di più i giocatori italiani o che ne so, perché quella è pura demagogia. Io credo che l'arrivo di Bryant, anche soltanto per un mese e mezzo del campionato italiano, non risolverebbe i problemi del basket, però darebbe al basket quantomeno la possibilità di creare qualcosa di nuovo, e potrebbe a lungo termine, chissà, avere anche effetti positivi invece sui settori giovanili. Traffico. Strade in diretta. Traffico molto intenso di rientro verso le città sulla rete autostradale in Toscana, i disagi sull'autosole con code a tratti tra Firenze Sud e Roncobilaccio verso Bologna. Traffico a rilento verso Firenze anche sulla 11 e lungo la Firenze Pisa Livorno. Traffico intenso verso Milano sulla A4, in particolare code in alcuni tratti tra Brescia e Bergamo. Sul tratto Veneto traffico a rilento verso Milano sempre tra Mestre e Padova e tra Somma Campagna e Desenzano. In Liguria trafficate le autostrade verso Genova con code sulla 10 tra Pietra Ligure e Savona e poi altre code alle porte del capoluogo Ligure sia sulla 10 che sulla A12. Code per lavori sulla 15 della Cisa tra l'innesto con la 12 e Aulla nei due sensi di marcia e verso Parma tra Pontremoli e Berceto e all'innesto per l'autosole. Come ripercussione ci sono code sulla 12 all'innesto con la 15. Anche verso Torino code per lavori sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Nus e Verres e tra Volpiano e Settimo. Sulla 6 Torino Savona code sempre per lavori tra Millesimo e Ceva verso Torino. Infine sulla 22 del Brennero code per un veicolo in avaria in entrata in Italia tra Terme di Brennero e la barriera di Vipiteno verso Modena. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Continua la corsa al rialzo dell'oro, ma c'è un investimento più sicuro e redditizio: le pompe di calore a metano per riscaldamento. Le pompe di calore Robur valorizzano l'immobile perché ne aumentano la classe energetica, contribuendo ad alzarne il valore al metro quadro fino a 100 euro in più. Le pompe di calore Robur a metano ed energie rinnovabili sono l'investimento migliore per valorizzare gli immobili. Documentarsi conviene su www.riscaldamentorobur.it. Tempo di sport. Allora, già che stavamo parlando della possibilità dell'arrivo di Kobe Bryant in Italia, approfondiamo, visto che vi piace l'argomento, poi se volete parliamo anche d'altro, 800 24 00 24. Tornando a fare un salto a New York da Simone Sandri, oggi un po' arrabbiato per il 3-3 del suo Novara. Simone? Buon pomeriggio Carlo, sì. 33, peraltro meritatissimo al Catania, però al 91esimo lascia un po' la mano in bocca. Non devi, in confronto diretto non devi pigliare gol al 91esimo. Certo, certo, verissimo, verissimo. Invece nella sala riunioni del Palazzo NBA che succede? Succede che ci sono pochi progressi, i proprietari e l'associazione dei giocatori continuano a parlare, questo è sicuramente un buon segno, però dei veri progressi non ci sono, le parti sono ancora molto lontani sia sul discorso di trasformare la salary cap da una soft cap a una hard cap, ma soprattutto sulle questioni economiche le parti sono lontanissime. C'è stato un piccolo avvicinamento alla giornata di venerdì, ieri è stata una giornata un po' di transizione, oggi si è accettata una piccola pausa, da domani si tornerà a discutere. La verità è che il tempo stringe e veramente è molto difficile pensare che possa arrivare una fumata bianca. I fumi a ciel sereno in modo da far rasserenare gli animi e far trovare questo accordo in tempo per giocare la prima partita di regular season il primo di novembre. Ieri ci sono, ricordiamo, dei tempi tecnici molto stretti anche da noi per il tesseramento dei giocatori, scade venerdì. Sabatini l'altro giorno, intervenendo a questi microfoni, ci ha spiegato dove sarebbe Bryant. A metà settimana dovrebbe essere a Bologna con il visto in mano e quindi dovrebbero fare il tesseramento in tempi rapidi. Però ieri ti sentivo un po' perplesso circa questa possibilità, perché per la complessità dell'operazione. Sì, perché già l'idea di portare un giocatore del calibro di Kobe Bryant con i problemi fisici comunque di Kobe Bryant, cioè le ambizioni di un giocatore che comunque il cui obiettivo è quello di raggiungere Michael Jordan e di vincere il sesto titolo, per cui già riuscire a convincere un giocatore così a venire a giocare in Italia per 40 giorni è già un'impresa molto ma molto molto complessa, perché Bryant porta dietro di sé naturalmente un impero economico, un impero di marketing, per cui un contratto con Kobe Bryant è cosa lunga, su questo non ci sono dubbi. Già questo è un'impresa difficile. Se poi il problema sorge perché per trovare la cifra che sulla quale Kobe Bryant avrebbe raggiunto l'accordo, bisogna anche trovare accordi con altre, con sponsor, con altre società, con società rivali della stessa società che ti vuole portare, cioè Bologna, diventa una cosa veramente complessa. Se a tutto questo aggiungiamo che il tempo stringe, che ci sono dei punti di domanda anche su un possibile accordo di giocatori proprietari, magari ci sono tanti, secondo me ci sono tantissimi fattori che giocano contro questa situazione qui. Poi ovviamente tutto può succedere, io sono un po' scettico proprio per queste situazioni, diciamo, certo, contingenti. Simone, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a te, Carlo. Da New York. Grazie a Simone Sandri. Ed è un piacere per me salutare per la prima volta in questa stagione, ma sono la prima di tante, Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno Carlo. Buongiorno a te. Domenica prossima si parte, qui tutte le settimane, eh? Non prendere impegni. No, si parte se ci sono gli arbitri, se no non si parte. Perché oggi la notizia è che non ci sono gli arbitri. Cioè? C'è questa notizia relativamente agli arbitri che vivono un periodo difficile, però immagino che ci sia altro di cui parlare. Sì, l'altro di cui parlare è che speriamo ci siano gli arbitri, ma speriamo che ci sia anche il giocatore più famoso del mondo. Io non ti ho ancora chiesto, nemmeno in via privata, qual è la tua posizione sull'argomento. Allora, la mia posizione è di non avere una posizione, nel senso che la mia posizione sull'argomento è quella che se c'è un buon giocatore nel raggio di 100 chilometri io cerco di andarlo a vedere, se c'è il giocatore, se non il più forte, il secondo più forte del mondo, ma probabilmente il primo, il raggio diventa di 300 chilometri, la posizione personale. Se bisogna dividersi in quelli che vogliono Bryant e quelli che non vogliono Bryant, non mi iscrivo né a uno né all'altro dei partiti. Se invece volessimo analizzare cosa potrebbe significare Brian, che cosa comporta, eccetera eccetera, lì ci sto volentieri. Cosa potrebbe significare Brian per il basket italiano, Flavio? Ma io temo purtroppo non tantissimo, che non è certo un limite di Brian, non è certo un limite di chi lo prenderebbe, però è la situazione del basket italiano. Prendere Brian, avvitarlo per 10 partite su questa situazione, poi svitare, rimandarlo al mittente e ritrovarsi la stessa situazione, onestamente non sposta di un millimetro la situazione stessa, che è abbastanza seria, non voglio dire grave perché ci sono altre cose gravi, però seria sì, e forse sarebbe meglio affrontare quella. Questo non significa che non si possa prendere Brian, però pensare tramite Brian di risolvere quella, no, quello non lo vedo onestamente possibile. No, non risolve alcun problema strutturale, però dicevo prima, potrebbe far vivere comunque la pallacanestro italiana, e non è il caso di demonizzare anche l'importanza dei media, perché non, i media non sono il diavolo, darebbe comunque al basket italiano una sorta di rapida primavera, di rapida estate indiana, no? Decisamente sì, questo è chiarissimo ed è naturale, anche lì, però il basket italiano, il basket europeo spesso si pone in contrapposizione al basket americano, arrivando a semplificare dicendo quello è un circo, noi siamo sport vero. Se però i media italiani e europei reagiscono solo quando arriva la parte vissuta come un circo, allora non mi ci ritrovo più, perché se noi stessimo dicendo arriva qui il miglior giocatore del mondo e si associa alla nostra immagine è una cosa, se invece diciamo arriva qui un super fenomeno mondiale a livello appunto mediatico, venite a vedere se riuscite a toccarlo e poi non vi lavate le mani per una settimana, è per quello secondo me che non ci rimane niente, perché non riusciamo ad associarlo alla nostra immagine di pallacanestro, che peraltro normalmente, ripeto, ha quest'aura monastica per cui l'NBA, che schifo, non mi interessa perché fanno il circo. Bisognerebbe decidersi forse. Flavio, ci sentiamo in settimana, a cominciare da venerdì. Sarà un grosso piacere. Ti do questo appuntamento pubblico e poi naturalmente da domenica prossima, ogni domenica. Grazie Flavio, alla prossima. A te, ciao. Grazie a Flavio Tranquillo. Noi scendiamo qui, nel senso che ci andiamo a vedere Juventus-Milan che inizia alle 20:45, poi domani ci sarà dalle 14 Gigi Garanzini a parlarne, venerdì per l'appunto inizieremo la stagione di Palaspicchi. Io mi auguro con grandi notizie, personalmente con grandi notizie, e poi settimana prossima, solito weekend, sabato dalle 17 alle 18 e domenica dalle 16:30 alle 19 come oggi, poi lo ripeto con il basket che inizia, con il campionato di basket che inizia e con i tempi supplementari dalle 20:30 alle 21. Dunque mi pare di aver detto tutto, vi ricordo di venirci a trovare su Facebook e Twitter, così continuiamo a dialogare anche quando i microfoni si spengono, cosa che accadrà tra un istante. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti.